Secondo libro dei Re. Dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele. Acazia era caduto dal parapetto della sua camera superiore in Samaria. Sentendosi male, egli mandò messaggeri ai quali disse: «Andate a consultare Baal-Zebub, dio di Accaron, per sapere se guarirò da questa infermità». Ma l'angelo del Signore disse ad Elia il Tisbita: «Levati e vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro: non v'è forse un dio in Israele perché voi andiate a consultare Baal-Zebub, dio di Accaron? Perciò così dice il Signore: dal letto sul quale sei salito, tu non discenderai più, perché certamente morrai». Ed Elia se ne andò. I messaggeri ritornarono dal re, che domandò loro: «Perché siete ritornati?» Quelli gli risposero: «Un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate, ritornate dal re che vi ha mandati e ditegli: così parla il Signore: non v'è forse un dio in Israele che tu mandi a consultare Baal-Zebub, dio di Accaron? Per questo, dal letto sul quale sei salito, tu non discenderai più, perché certamente morrai». Domandò loro: «Qual è il modo di vestire dell'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole?» Gli risposero: «È un uomo vestito di pelo, con una cintura di cuoio stretta ai fianchi». Quegli esclamò: «È Elia il Tisbita». Allora gli mandò un comandante con i suoi 50 uomini, il quale salì da Elia, che se ne stava seduto sulla cima della montagna, e gli disse: «O uomo di Dio, il re ti ordina di scendere». Elia rispose al comandante dei 50 uomini: «Se io sono un uomo di Dio, un fuoco discenda dal cielo e divori te e i tuoi 50 uomini». Un fuoco discese dal cielo e divorò lui e i suoi 50 uomini. Allora il re mandò di nuovo un comandante con i suoi 50 uomini, il quale salì e gli disse: «O uomo di Dio, così parla il re, affrettati a scendere». Per risposta Elia gli disse: «Se io sono un uomo di Dio, un fuoco discenda dal cielo e divori te e i tuoi 50 uomini». Un fuoco discese dal cielo e divorò lui e i suoi 50 uomini. Di nuovo, per la terza volta, il re mandò un comandante con i suoi 50 uomini, il quale salì e, giunto ad Elia, gli si inginocchiò davanti e lo supplicò, dicendogli: «O uomo di Dio, dee, la mia vita e quella di questi 50 tuoi servi siano preziose ai tuoi occhi. Ecco, un fuoco è disceso dal cielo ed ha divorato i due primi comandanti e i loro 50 uomini, ma ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi». L'angelo del Signore disse ad Elia: «Discendi con lui e non temere da parte sua». Egli si levò, discese con lui dal re e gli disse: «Così parla il Signore: poiché hai mandato messaggeri a consultare Baal-Zebub, dio di Accaron, come se non ci fosse nessun dio in Israele per consultarlo su questa cosa, per questo, dal letto sul quale sei salito, tu non discenderai più, perché certamente morrai». Infatti morì, secondo la parola del Signore che Elia aveva pronunciato, e nell'anno secondo di Joram, figlio di Josafat, re di Giuda, gli successe sul trono suo fratello Joram, poiché egli non aveva figli. Le altre gesta di Acazia e le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Israele? Quando il Signore stava per sollevare Elia in cielo in un turbine, Elia ed Eliseo partirono da Galgala. Elia disse ad Eliseo: «Resta qui, perché il Signore mi manda a Betel». Eliseo rispose: «Quant'è vero che il Signore vive e tu stesso vivi, non ti lascerò». Discesero a Betel. Or i discepoli dei profeti che si trovavano a Betel andarono incontro ad Eliseo e gli dissero: «Sai che oggi il Signore rapirà al di sopra della tua testa il tuo Signore?» Quegli rispose: «Anch'io lo so, tacete». Elia disse ad Eliseo: «Resta qui, perché il Signore mi manda a Gerico». Egli rispose: «Quanto è vero che il Signore vive e tu stesso vivi, non ti lascerò». Discesero a Gerico. I discepoli dei profeti che erano in Gerico si avvicinarono ad Eliseo e gli dissero: «Sai che oggi il Signore rapirà al di sopra della tua testa il tuo Signore?» Quegli rispose: «Anch'io lo so, tacete». Gli disse ancora Elia: «Resta qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Quanto è vero che il Signore vive e tu stesso vivi, non ti lascerò». Andarono tutti e due. 50 discepoli di profeti vennero e si fermarono di fronte, da lontano, mentre i due si spinsero fino al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero in due parti, e i due le attraversarono. Dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo: «Chiedi ciò che vuoi che faccia per te prima che sia sottratto a te». Eliseo rispose: «Passino a me i due terzi del tuo spirito». Elia replicò: «Domandi una cosa difficile, ma l'otterrai se mi potrai vedere quando verrò tolto da te, altrimenti no». Or mentre essi camminavano e parlavano, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra di essi, ed Elia salì al cielo in un turbine. Mentre stava guardando, Eliseo gridava: padre mio, carro di Israele e sua pariglia!» Quando non lo vide più, afferrò i suoi vestiti e li stracciò in due pezzi. Poi raccolse il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, tornò indietro e si fermò sulla sponda del Giordano. Percosse le acque dicendo: «Dove mai il Signore, Dio di Elia?» Quando ebbe percosse le acque, esse si divisero in due parti ed egli le attraversò. I discepoli dei profeti che si trovavano in Gerico e stavano di fronte lo videro ed esclamarono: «Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo». Gli andarono incontro, si prostrarono a terra e gli dissero: «Ecco, vi sono qui con i tuoi servi 50 uomini molto forti. Permetti che vadano a cercare il tuo Signore. Forse lo spirito del Signore lo ha sollevato e lo ha gettato su qualche montagna o in qualche valle». Egli rispose: «Non mandateli». Tuttavia quelli tanto insistettero che egli disse: «Mandateli». Allora mandarono 50 uomini, i quali lo cercarono per 3 giorni, ma non lo trovarono. Ritornarono da lui mentre si trovava in Gerico, ed egli disse loro: «Non vi avevo forse detto, non andate?» Gli abitanti della città dissero ad Eliseo: «Ecco, la città offre un piacevole soggiorno, come il mio signore può constatare. L'acqua però è cattiva e la terra è sterile». Egli rispose: «Prendetemi un piatto nuovo e mettetevi del sale». Glielo presero. Allora si recò alla sorgente dell'acqua, vi gettò il sale e disse: «Così parla il Signore: ho risanato quest'acqua, d'ora in poi non causerà più morte o sterilità. L'acqua è stata salubre fino ad oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciato». Di là salì a Betel. Mentre saliva per la strada, alcuni ragazzi uscirono dalla città e si misero a beffeggiarlo, dicendogli: «Vieni su, testa pelata, vieni su, testa pelata!» Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. 2 orse uscirono dal bosco e sbranarono 42 di quei giovani. Di là, il profeta si recò sul Monte Carmelo, donde poi tornò a Samaria. L'anno 18° di Giosafat, re di Giuda, Ioram, figlio di Acab, divenne re di Israele in Samaria, dove regnò 12 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non come suo padre e sua madre. Rimosse infatti la stele di Baal che suo padre aveva fatto. Tuttavia rimase attaccato ai peccati che Geroboamo, figlio di Nebat, fece commettere a Israele e non se ne allontanò. Mesa, re di Moab, era pastore e pagava in tributo al re di Israele 100.000 agnelli e la lana di 100.000 montoni. Quando però morì Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. In quel giorno il re Ioram uscì da Samaria e passò in rassegna tutto Israele. Poi mandò a dire a Giosafat, re di Giuda: «Il re di Moab si è ribellato contro di me. Vuoi venire con me a combattere contro Moab?» Quegli rispose: «Salirò. Sarà di me come di te, del mio popolo come del tuo, dei miei cavalli come dei tuoi». Poi domandò: «Per quale via saliremo?» L'altro rispose: «Per la via del deserto di Edom». Il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom si misero in viaggio. Compirono un percorso aggirante di 7 giorni e venne a mancare l'acqua per la truppa e le bestie della retrovia. Il re di Israele esclamò: «Ahimè, il Signore ha chiamato questi 3 re per darli in mano di Moab». Ma Giosafat domandò: «Non c'è qui un profeta del Signore per mezzo del quale possiamo consultare il Signore?» Uno dei servi del re di Israele rispose: «C'è qui Eliseo, figlio di Safat, che versava l'acqua sulle mani di Elia». Giosafat soggiunse: «La parola del Signore è con lui». Il re di Israele, Giosafat, e il re di Edom discesero dunque da lui. Eliseo disse al re di Israele: «Che c'è tra me e te? Va dai profeti di tuo padre e dai profeti di tua madre». Gli rispose il re di Israele: «No, perché il Signore ha chiamato questi 3 re per darli in mano di Moab». Eliseo replicò: «Com'è vero che vive il Signore degli eserciti, davanti al quale sto, non ti darei retta, né ti degnerei neppure di uno sguardo, se non fosse per riguardo di Giosafat, re di Giuda. Ora conducetemi un suonatore di lira». Mentre il suonatore pizzicava le corde, la mano del Signore fu sopra Eliseo, che disse: «Così parla il Signore: scavate in questa valle numerose fosse. Infatti così parla il Signore: non vedrete né vento né pioggia. Tuttavia questa valle si riempirà di acqua e ne berrete voi, la vostra truppa e le vostre bestie. Ma questo è ancor poco agli occhi del Signore, perché egli darà Moab nelle vostre mani. Voi colpirete tutte le città fortificate, abbatterete tutti gli alberi buoni, otturerete tutte le sorgenti d'acqua e disseminerete di sassi i campi migliori». Al mattino seguente, nell'ora in cui si fa l'oblazione, sopraggiunse l'acqua dalla parte di Edom e la regione ne fu piena. Avendo sentito che i re salivano per muovere loro guerra, i moabiti convocarono tutti gli uomini capaci di portare le armi e si schierarono alla frontiera. Levatisi al mattino, quando il sole splendeva sull'acqua, i moabiti videro di fronte a loro l'acqua rossa come sangue. Dissero: «Questo è sangue. Certamente i re sono venuti alle mani e si sono uccisi l'un l'altro. Orsù, Moab, al saccheggio». Ma quando giunsero all'accampamento degli israeliti, questi si levarono e li batterono. Quei moabiti poi, che tentavano di fuggire davanti a loro, gli israeliti li inseguirono e li colpirono. Distrussero le città e gettarono delle pietre, una ciascuno, in tutti i campi migliori, fino a riempirli. Ostruirono tutte le sorgenti d'acqua e abbatterono tutti gli alberi buoni. Rimase soltanto Kir-Kareset, che i frombolieri accerchiarono e attaccarono. Quando il re di Moab vide che non poteva sostenere il combattimento, prese con sé 700 uomini armati di spada e tentò di aprirsi un varco verso il re di Edom, ma non vi riuscì. Allora prese il suo figlio primogenito, che doveva regnare al suo posto, e lo immolò in olocausto sulle mura. Ma si scatenò una grande collera contro gli israeliti, che si allontanarono da lui e ritornarono al loro paese. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, gridò ad Eliseo: «Il tuo servo, mio marito, è morto, e tu sai che il mio marito è morto, e tu sai che il tuo servo era timorato del Signore. È venuto a prendersi i miei 2 figli per farli suoi schiavi». Eliseo le domandò: «Che cosa devo fare per te? Dimmi che cosa hai in casa». Quella rispose: «La tua schiava non ha nulla in casa, all'infuori di un'ampolla d'olio». Allora egli disse: Va fuori a chiedere vasi vuoti a tutti i tuoi vicini e chiedine in abbondanza. Poi rientrerai in casa, chiuderai la porta dietro di te e dietro i tuoi figli e verserai l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Quella andò e chiuse la porta dietro di sé e dietro i suoi figli. Essi le porgevano i vasi ed essa vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse a un figlio: «Porgimi ancora un vaso». Ma quegli rispose: «Non ce n'è più». L'olio si fermò. Allora essa andò ad avvertire l'uomo di Dio e questi le disse: «Va a vendere l'olio e paga il tuo debito. Con il resto vivrete tu ed i tuoi figli». Un giorno che Eliseo passava per Sunem, una donna facoltosa lo invitò a prendere cibo. Da allora, ogni volta che passava di là, si recava da lei a prendere cibo. Essa disse a suo marito: «Ecco, io so che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Facciamogli una piccola stanza sulla terrazza e collochiamovi per lui un letto, una tavola, una sedia e una lampada. Quando verrà da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che Eliseo passò di lì, si ritirò nella camera superiore e si coricò. Disse poi a Geezi, suo servo: «Chiama questa sunamita». Egli la chiamò ed essa si presentò davanti a lui. Eliseo riprese: «Dille così: ecco che ti sei presa tutta questa premura per noi. Che cosa posso fare per te? Devo dire qualcosa al re o al comandante dell'esercito in tuo favore?» Quella rispose: «Io abito in mezzo al mio popolo». Eliseo replicò: «Che cosa posso fare per lei?» Geezi rispose: «Ahimè, essa non ha figli e suo marito è vecchio». Eliseo gli ordinò: «Chiamala». Quello la chiamò ed essa si fermò sull'uscio. Eliseo le disse: «In questa stagione, da qui a un anno, terrai un figlio tra le braccia». Essa disse: «No, mio signore, non ingannare la tua serva». Or la donna concepì e partorì un figlio nella stagione che aveva detto Eliseo. Il fanciullo si fece grande e un giorno che era andato dal padre tra i mietitori disse a suo padre: «La mia testa, la mia testa». Il padre ordinò al servo: «Portalo da sua madre». Quegli lo prese e lo portò da sua madre. Dopo essere rimasto sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, morì. Allora essa salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta dietro di lui ed uscì. Chiamò suo marito e gli disse: «Mandami uno dei servi e un'asina, corro dall'uomo di Dio e torno». Quegli replicò: «Perché vuoi andare da lui proprio oggi? Non è il novilunio e neppure sabato». Ma ella rispose: «Sta tranquillo». Fece sellare l'asina e ordinò al servo: «Conducimi avanti e non farmi scendere finché non te lo dirò io». Se ne andò infatti e si recò dall'uomo di Dio sul Monte Carmelo. Non appena l'uomo di Dio la vide di lontano, disse a Geezi, suo servo: «Ecco quella sunamita. Corrile incontro e domandale: stai bene? Sta bene tuo marito? Sta bene il fanciullo?» Essa rispose: «Bene». Giunse frattanto dall'uomo di Dio sul monte e gli abbracciò i piedi. Geezi si accostò per allontanarla, ma l'uomo di Dio gli disse: «Lasciala, perché la sua anima è amareggiata e il Signore me l'ha nascosto e non me l'ha manifestato». Essa disse: «Forse che avevo chiesto un figlio al mio Signore? Forse che non avevo detto: non mi ingannare?» Allora Eliseo disse a Geezi: «Cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e va. Se incontrerai qualcuno, non salutarlo, e se qualcuno ti saluterà, non rispondergli. Porrai il mio bastone sul viso del fanciullo». Ma la madre del fanciullo disse: «Com'è vero che il Signore vive e tu pure vivi, io non ti lascerò». Eliseo perciò s'alzò e la seguì. Geezi li aveva preceduti ed aveva posto il bastone sul viso del fanciullo, ma non si ebbe nessuna voce o segno. Perciò se ne ritornò da Eliseo e gli riferì: «Il fanciullo non s'è svegliato». Eliseo nel frattempo raggiunse la casa dove si trovava il fanciullo morto e disteso sul suo letto. Vi entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò il Signore. Poi salì e si distese sul fanciullo, ponendo la bocca sulla sua bocca, gli occhi sui suoi occhi, le mani sulle sue mani. Si piegò sopra e la carne del fanciullo si riscaldò. Alzatosi, si mise a camminare su e giù per la casa. Poi salì di nuovo e si piegò 7 volte su di lui. Il fanciullo starnutì ed aprì gli occhi. Eliseo allora chiamò Gezi, dicendogli: «Chiama quella sunamita». Egli la chiamò ed essa venne da lui, che le disse: «Prendi tuo figlio». Entrata da lui, gli si gettò ai piedi e gli rese omaggio, prostrandosi a terra. Poi prese suo figlio e uscì. Eliseo se ne tornò a Galgala, mentre nel paese c'era la carestia e i discepoli dei profeti erano seduti al suo cospetto. Egli disse al suo servo: «Metti sul fuoco la pentola più grande e fa cuocere una minestra per i discepoli dei profeti». Uno di essi, che era uscito in campagna in cerca di verdura, trovò una vite selvatica da cui raccolse cucurbite selvatiche fino a riempirne la falda della veste. Ritornato, le tagliò a pezzi e le gettò nella pentola perché non sapeva che cosa fossero. Ne versò poi agli altri perché ne mangiassero. Appena questi ebbero gustato la minestra, gridarono: «C'è la morte nella pentola, uomo di Dio!» E non ne poterono mangiare. Il profeta ordinò: «Portatemi della farina». La gettò nella pentola, poi disse: «Versatene alla gente perché ne mangi». E non ci fu più nulla di cattivo nella pentola. Venne poi un uomo di Baal Salisa che portava all'uomo di Dio nella bisaccia pane di primizia, 20 pani d'orzo e del farro. Eliseo disse: «Dalli a questa gente perché ne mangi». Il suo servo obiettò: «Come posso dare questo a 100 persone? Il profeta disse: «Dalli alla gente perché ne mangi, poiché il Signore ha detto così: se ne mangerà e ne avanzerà». Quegli li diede ed essi mangiarono e ne avanzarono, secondo la parola del Signore. Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un uomo molto influente e stimato presso il suo signore, perché per mezzo suo il Signore ad Aram. Ora quest'uomo, tanto valoroso, era lebbroso. Gli aramei, usciti a fare una razzia, rapirono dal paese di Israele una ragazzina, la quale passò al servizio della moglie di Naaman. Essa disse alla sua signora: «Se il mio signore si rivolgesse al profeta che c'è in Samaria, certamente egli lo libererebbe dalla lebbra». Naaman andò ad informare il suo signore, dicendo: «La fanciulla della terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram rispose: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Quegli se ne andò dopo aver preso con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vesti. Presentò al re di Israele la lettera che diceva: «Nello stesso tempo in cui ti giungerà questa lettera, io ti invio il mio servo Naaman perché lo guarisca dalla lebbra». Letta che ebbe la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti ed esclamò: «Sono io forse Dio che posso far morire e vivere dal momento che costui mi manda uno perché lo guarisca dalla lebbra? Considerate bene e vedrete che costui sta cercando l'occasione per nuocermi». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, ebbe udito che il re di Israele s'era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Venga pure da me e saprà che v'è un profeta in Israele». Naaman venne con i suoi cavalli e il suo cocchio e si fermò davanti alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli mandò un messaggero che gli dicesse: «Va a bagnarti 7 volte nel Giordano e la tua carne ritornerà come prima e sarai purificato». Naaman s'adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io me l'ho detto, Certamente egli uscirà, mi starà davanti ed invocherà il nome del Signore Dio suo, agitando la mano sulla parte infetta, e mi libererà dalla lebbra. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Se mi bagnassi in essi, non sarei forse purificato? Si voltò e se ne andò tutto infuriato. I suoi servi però gli vennero vicino e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, non l'avresti forse eseguita? A maggior ragione ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Allora egli discese e si immerse 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. La sua carne tornò come quella di un ragazzino e fu purificato. Ritornò poi dall'uomo di Dio con tutto il suo seguito, entrò, gli stette davanti e disse: «Ecco, io so che in tutta la terra non v'è Dio se non in Israele. Ora accetta un regalo dal tuo servo». Egli rispose: «Per il Signore vivente, che io servo, non l'accetterò». Quegli insistette perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Poiché non vuoi, acconsenti che sia data al tuo servo la terra che può essere caricata su 2 muli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, tranne che al Signore. Il Signore però perdoni il tuo servo per questa azione. Quando il mio Signore si recherà al tempio di Rimmon per farvi adorazione, si appoggerà al mio braccio, ed io mi prostrerò nel tempio di Rimmon mentre egli si prostra. Voglia il Signore perdonare il tuo servo per questa azione». Il profeta gli rispose: «Vai in pace». Quegli si allontanò per un buon tratto di cammino. Gezi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse tra sé: «Ecco, il mio Signore ha avuto riguardo per questo Naaman arameo, rifiutandosi di prendere dalla sua mano quanto gli aveva portato. Com'è vero che vive il Signore, gli correrò dietro e certamente prenderò da lui qualcosa». Difatti, Gezi si mise ad inseguire Naaman. Quando questi lo vide corrergli dietro, saltò giù dal cocchio per andargli incontro e gli domandò: «Va tutto bene?» Quegli rispose: «Tutto bene. Il mio Signore mi manda a dirti: ecco, in questo momento sono venuti da me, dalla montagna di Efraim, 2 giovani dei discepoli dei profeti. Dammi per loro 1 talento d'argento e 2 mute d'abiti. Naaman disse: «Fammi il piacere, prendi 2 talenti. Dopo un po' di insistenza, legò in 2 sacchi i 2 talenti d'argento con le 2 mute di abiti e li diede a 2 servi che li portarono davanti a Gezi. Giunto sulla collina, egli li prese dalle loro mani e li depositò nella casa. Poi rimandò gli uomini che se ne andarono. Andò quindi a presentarsi al suo signore, che gli domandò: «D'onde vieni, Gezi?» Quegli rispose: «Il tuo servo non è andato in nessun luogo». L'altro replicò: «Forse che il mio spirito non era presente quando un uomo è disceso dal suo cocchio per venirti incontro? Ora che hai ricevuto il denaro, puoi comprarti giardini, oliveti e vigne, pecore e buoi, schiavi e schiave. Ma la lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre». Quegli uscì dalla sua presenza bianco di lebbra come la neve. I discepoli dei profeti dissero ad Eliseo: «Ecco, il luogo in cui noi abitiamo presso di te è troppo stretto per noi. Se vuoi, andremo al Giordano, là prenderemo 1 trave per ciascuno e ci faremo 1 luogo per abitarvi». Egli rispose: «Andate pure». Uno di loro disse: «Degnati di venire con i tuoi servi». Egli rispose: «Verrò», e andò con loro. Giunti al Giordano, si misero a tagliare 1 piante. Mentre uno di essi abbatteva la sua trave, il ferro cadde nell'acqua. Allora si mise a gridare: «Ah, mio signore, esso era stato preso in prestito». L'uomo di Dio domandò: «Dov'è caduto?» Quegli gli fece vedere il posto. Allora egli tagliò 1 pezzo di legno, lo gettò là E il ferro venne a galla. Poi disse: prendilo. Quegli stese la mano e lo prese. Il re di Aram, mentre era in guerra con Israele, consigliò i suoi subalterni dicendo: scendete in quel luogo determinato. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: stai in guardia circa quel luogo, perché là scendono gli aramei. Il re di Israele mandò ad esplorare il luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e su cui l'aveva premunito, e se ne stette in guardia. Questo si verificò non una né due volte soltanto. Il cuore del re di Aram si turbò per questa cosa, perciò convocò i suoi subalterni e disse loro: non mi sapete dire chi tra noi parteggia per il re di Israele? Uno dei subalterni replicò: no, o re mio signore, ma è Eliseo, il profeta che si trova in Israele, che riferisce al re di Israele le parole che dici nella tua camera da letto. E gli ordinò: andate a vedere dove egli si trova, ed io manderò a catturarlo. Gli fu riferito: ecco, si trova in Dotan. Allora vi mandò cavalli, carri e un forte drappello che arrivarono di notte e circondarono la città. All'indomani l'uomo di Dio si levò in fretta e uscì. Ma ecco che un drappello circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo gli disse: ah, che faremo, mio signore? Quegli rispose: non temere, perché c'è più gente con noi che con loro. Eliseo pregò così: signore, apri i suoi occhi perché possa vedere. Il signore aprì gli occhi del servo e questi vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco che circondavano Eliseo. Poiché gli aramei scendevano verso di lui, Eliseo pregò così il signore: colpisci di cecità questa gente. E li colpì di cecità secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: questa non è la strada e neppure la città. Venite dietro a me e vi condurrò dall'uomo che voi cercate. Li condusse a Samaria. Giunti che furono a Samaria, Eliseo disse: o Signore, apri i loro occhi perché vedano. Il Signore aprì i loro occhi e videro. Si trovavano dentro Samaria. Quando li vide, il re di Israele disse a Eliseo: li devo uccidere, padre mio? Eliseo rispose: non ucciderli. Uccidi forse quelli stessi che fai prigionieri con la tua spada e il tuo arco? Metti davanti ad essi pane ed acqua perché mangino e bevano e poi ritornino dal loro signore. Fu preparato per essi un gran pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li rimandò ed essi ritornarono dal loro signore. D'allora in poi le bande di Aram non osarono più venire nel territorio di Israele. Dopo questi fatti avvenne che Ben-Hadad, re di Aram, raccolse tutto il suo esercito e salì per porre l'assedio a Samaria. Ci fu una grande fame in Samaria a causa dell'assedio, a tal punto che una testa d'asino valeva 80 sicli d'argento e un quarto di cab di ornitogali valeva 5 sicli. Mentre il re transitava sulle mura, una donna gli gridò: salvami, o re, mio signore. Questi le rispose: se non ti salva il Signore, come ti salverò io? Forse con i prodotti dell'aia o del torchio? Poi il re le soggiunse: che cos'hai? Ella rispose: questa donna mi ha detto: dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi, mio figlio lo mangeremo domani. Così l'abbiamo fatto cuocere, mio figlio, e l'abbiamo mangiato. Poi il giorno seguente le ho detto: dammi tuo figlio perché lo mangiamo, ma lei ha nascosto suo figlio. Udito che ebbe le parole della donna, il re si stracciò le vesti mentre transitava sulle mura, così che il popolo vide che sotto, aderente alla carne, c'era il sacco. E disse: che Dio mi faccia questo male e mi aggiunga ancora quest'altro, se la testa di Eliseo, figlio di Safat, resterà oggi sulle sue spalle. Ora Mentre Eliseo se ne stava in casa sua e gli anziani stavano con lui, il re si fece precedere da un messaggero. Prima che questi giungesse da lui, egli disse agli anziani: «Avete visto che quel figlio di assassino ha mandato a tagliarmi la testa? Osservate, quando giungerà il messaggero, sbarrate la porta impedendogli così di entrare. Forse che dietro di lui non v'è il rumore dei passi del suo signore?» Mentre ancora parlava con essi, ecco che il re discese da lui e disse: «Ecco, questo male proviene dal Signore. Che cosa posso ancora aspettarmi da lui?» Eliseo disse: «Ascoltate la parola del Signore. Domani, alla stessa ora, alla porta di Samaria, un sea di fior di farina costerà un siclo e due sea di orzo pure un siclo». Lo scudiero al cui braccio era appoggiato il re rispose all'uomo di Dio: «Ecco che il Signore sta per fare delle aperture nel cielo. È mai possibile una cosa simile?» Eliseo replicò: «La vedrai tu stesso con i tuoi occhi, ma non ne mangerai». Or quattro uomini lebbrosi che si trovavano all'ingresso della porta si dissero l'un l'altro: «Perché noi rimaniamo qui fino a che non moriremo? Se decidiamo di entrare in città, lì v'è la fame e moriremo. Se invece restiamo qui, moriremo ugualmente. Orsù, andiamo e passiamo nell'accampamento di Aram. Se ci lasceranno vivere, vivremo. Se invece ci faranno morire, moriremo». Al crepuscolo, essi si levarono per andare all'accampamento di Aram. Quando però giunsero all'estremità dell'accampamento di Aram, ecco, non v'era nessuno. Il Signore, infatti, aveva fatto udire nell'accampamento di Aram un rumore di carri e di cavalli, un rumore di un grande esercito, ed essi si erano detti l'un l'altro: «Ecco, il re di Israele ha assoldato contro di noi i re degli Ittiti e i re d'Egitto perché marcino contro di noi». Si levarono e fuggirono al crepuscolo, abbandonando le tende, i cavalli, gli asini, l'intero accampamento così come si trovava. Essi fuggirono per salvare la loro vita. Quei lebbrosi giunsero all'estremità dell'accampamento ed entrarono in una tenda, mangiarono e bevvero. Poi asportarono di là argento, oro e vestiti che andarono a nascondere. Quindi si dissero l'un l'altro: «Non facciamo così, oggi è giorno di buone notizie e noi ce ne stiamo zitti. Se aspettiamo che spunti il mattino, un castigo ci potrebbe colpire. Orsù, andiamo ad informare il palazzo reale». Arrivati che furono, chiamarono i guardiani della città e li informarono, dicendo loro: «Siamo andati nell'accampamento di Aram, ed ecco, là non c'era nessuno né si udiva voce umana, c'erano soltanto cavalli legati e asini legati, e le tende così come erano prima». I guardiani gridarono e fecero giungere la notizia all'interno del palazzo reale. Il re si levò di notte e parlò ai suoi subalterni: «Vi spiegherò io ciò che ci hanno fatto gli aramei. Sapendo che noi siamo affamati, sono usciti fuori dell'accampamento per nascondersi nella campagna, dicendo: quando usciranno dalla città, li cattureremo vivi e poi entreremo nella città». Uno dei subalterni rispose: «Si prendano i cinque cavalli superstiti che sono rimasti in città, al massimo periranno anch'essi come la massa che è morta, e mandiamo a vedere». Presero dunque due carri con i loro cavalli e il re li inviò dietro gli aramei dicendo loro: «Andate e vedete». Essi andarono dietro a loro fino al Giordano ed ecco, tutta la strada era cosparsa di vesti e di oggetti che gli aramei avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. I messaggeri ritornarono ed informarono il re. Allora il popolo uscì e saccheggiò l'accampamento di Aram. Così un sea di fior di farina venne a costare un siclo e due sea di orzo pure un siclo, secondo la parola del Signore. Il re aveva messo a guardia della porta lo scudiero al cui braccio egli s'appoggiava. Il popolo lo calpestò presso la porta Ed egli morì, secondo quello che aveva detto l'uomo di Dio quando il re era sceso da lui. Così avvenne, come l'uomo di Dio aveva detto al re: domani, alla stessa ora, alla porta di Samaria, due sea di orzo costeranno un siclo e un sea di fior di farina pure un siclo. Lo scudiero aveva risposto all'uomo di Dio: ecco che il Signore sta per fare delle aperture nel cielo, è mai possibile una cosa simile? Quegli aveva replicato: lo vedrai tu stesso con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. Gli accadde proprio così. Il popolo lo calpestò presso la porta ed egli morì. Eliseo disse alla donna cui aveva risuscitato il figlio: levati, vattene con la tua famiglia e soggiorna fuori, dove ti sarà possibile, perché il Signore ha chiamato la fame che durerà nel paese per 7 anni. La donna si levò e fece secondo la parola dell'uomo di Dio. Partì lei e la sua famiglia e soggiornò nel paese dei Filistei per 7 anni. Trascorsi che furono i 7 anni, la donna ritornò dal paese dei Filistei e si recò dal re a reclamare la sua casa e il suo campo. Il re stava parlando con Gezi, il servo dell'uomo di Dio, e gli diceva: raccontami, ti prego, tutte le grandi cose che Eliseo ha fatto. Mentre egli raccontava al re il modo come aveva risuscitato il morto, ecco che si presentò la donna cui il profeta aveva risuscitato il figlio, per reclamare dal re la sua casa e il suo campo. Gezi allora disse: «O re mio signore, questa è la donna e questo è il suo figlio che Eliseo ha risuscitato». Il re interrogò la donna ed essa gli narrò il fatto. Allora il re la affidò ad un eunuco con quest'ordine: «Si restituisca tutto quello che le appartiene e tutte le rendite del campo dal momento in cui essa ha lasciato il paese fino ad ora». Eliseo si recò a Damasco. Ben-Hadad, re di Aram, era ammalato e gli fu annunciato: «L'uomo di Dio è venuto fin qui». Il re disse a Cazael: «Prenditi un regalo, va incontro all'uomo di Dio e per mezzo suo consulta il Signore così: guarirò da questa malattia?» Cazael gli andò incontro, dopo essersi preso come regalo ogni cosa più preziosa di Damasco, un carico di 40 cammelli. Giunto da lui gli si presentò e gli disse: «Tuo figlio Ben-Hadad, re di Aram, mi ha mandato da te per domandarti: guarirò da questa malattia?» Eliseo rispose: «Va e digli: certamente guarirai. Però il Signore mi ha fatto vedere che certamente egli morirà». Poi immobilizzò il suo volto e irrigidì il suo sguardo per lungo tempo. Alla fine l'uomo di Dio scoppiò in pianto. Allora Cazael domandò: «Perché piangi, mio signore?» Quegli rispose: «È perché so tutto il male che farai ai figli di Israele. Brucerai le loro fortezze, ucciderai di spada i loro primogeniti, sfracellerai i loro lattanti, sventrerai le loro donne incinte». Cazael esclamò: «Che è mai il tuo servo? È forse un cane perché possa fare una cosa così mostruosa?» Eliseo gli replicò: «Il Signore mi ha fatto vedere che tu sarai re di Aram». Partito che fu da Eliseo, si recò dal suo signore che gli domandò: «Che cosa ti ha detto Eliseo?» Quegli rispose: «Mi ha detto che tu certamente guarirai». Il giorno dopo, egli prese una coperta, la immerse nell'acqua, gliela pose sul viso e quegli morì. Così Cazael regnò al posto suo. Il 5° anno di Joram, figlio di Acab, re di Israele, divenne re Joram, figlio di Josafat, re di Giuda. Al suo avvento al trono, egli aveva 32 anni e regnò 8 anni a Gerusalemme. Imitò la condotta dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab. Una figlia di Acab era infatti sua moglie, e fece il male agli occhi del Signore. Tuttavia il Signore non volle distruggere Giuda a causa di Davide, suo servo, perché aveva promesso di dare a lui e ai suoi discendenti una lampada perenne. Ai suoi tempi Edom si liberò dal dominio di Giuda e si diede un re. Allora Joram con tutti i suoi carri passò a Zeira. Levatosi di notte con i comandanti dei carri, batté gli edomiti che lo avevano accerchiato. Il popolo fuggì alle sue tende. Così Edom si liberò dal dominio di Giuda fino ad oggi. Anche Libna si ribellò in quel tempo. Le altre gesta di Joram e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? Joram si addormentò con i suoi antenati e fu seppellito con essi nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Acazia. L'anno dodicesimo di Joram, figlio di Acab, re di Israele, incominciò a regnare Acazia, figlio di Joram, re di Giuda. Al suo avvento al trono Acazia aveva 22 anni e regnò un anno a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Atalia, figlia di Omri, re di Israele. Egli seguì la condotta della casa di Acab e fece il male agli occhi del Signore, come la casa di Acab, poiché si era imparentato con la casa di Acab. Assieme a Joram, figlio di Acab, andò a combattere Kazael, re di Aram, a Ramot di Galaad. Ma gli aramei ferirono Joram. Allora il re Joram ritornò a Israel per farsi curare le ferite che gli aramei gli avevano inferte a Ramot, mentre combatteva Kazael, re di Aram. Acazia, figlio di Joram, re di Giuda, discese a Israel a visitare Joram, figlio di Acab, che era sofferente. Il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse: «Cingiti i fianchi, prendi con te quest'ampolla di olio e recati a Ramot di Galaad. Giunto colà, cerca di vedere Jehu, figlio di Giosafat, figlio di Nimsi. Trovatolo, lo farai alzare di mezzo ai suoi colleghi e lo condurrai in una stanza isolata. Poi prenderai l'ampolla dell'olio e la verserai sulla sua testa, dicendogli: così parla il Signore, io ti ungo re di Israele. Aprirai quindi la porta e fuggirai senza indugio». Allora il giovane si recò a Ramot di Galaad. Quando vi giunse, i comandanti dell'esercito erano seduti a consiglio. Egli disse: «Ho una parola per te, comandante». Jehu domandò: «Per chi di noi?» Quegli rispose: «Per te, comandante». Egli si levò ed entrò nella casa. Il giovane allora gli versò l'olio sul capo, dicendogli: «Così parla il Signore, Dio di Israele, ti ungo re del popolo del Signore di Israele. Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore, così vendicherò il sangue dei miei servi, i profeti, e quello di tutti i servi del Signore, versato per opera di Jezabele. Tutta la casa di Acab perirà. Reciderò via da Acab ogni maschio, schiavo o libero, in Israele. Tratterò la casa di Acab come quella di Geroboamo, figlio di Nebatte, come quella di Baasa, figlio di Achia. Quanto a Jezabele, i cani la divoreranno nel campo di Israel. Nessuno la seppellirà». Poi aprì la porta e fuggì. Jehu uscì e ritornò dai servi del suo signore, che gli domandarono: «Va tutto bene? Perché quel pazzo è venuto da te?» Rispose ad essi: «Voi conoscete l'uomo e le sue chiacchiere». Essi però replicarono: «È falso, raccontacelo tu». Allora egli soggiunse: «Egli mi ha detto così e così, affermando: questo dice il Signore, ti ho unto re di Israele». Quelli allora s'affrettarono a prendere ciascuno il proprio mantello, lo stesero sotto di lui, sopra i gradini, Poi suonarono la tromba e proclamarono: Jehu è re. Jehu, figlio di Giosafat, figlio di Nimsi, ordì una congiura contro Joram, il quale, assieme a tutto Israele, aveva difeso Ramot di Galaad contro Cazzael, re di Aram. Il re Joram era tornato a Israele per farsi curare le ferite che gli avevano inferto gli aramei mentre combatteva contro Cazzael, re di Aram. Jehu disse: «Se siete d'accordo con me, nessuno esca dalla città per andare a portare la notizia in Israele». Jehu salì sul carro e si recò a Israel perché Joram lì giaceva sofferente e Acazia, re di Giuda, era disceso a fargli visita. La sentinella che stava sulla torre di Israel, vedendo giungere la schiera di Jehu, disse: «Vedo una schiera». Joram replicò: «Prendi un cavaliere, mandalo incontro ad essi e domandi: va tutto bene?» Il cavaliere gli andò incontro e disse: «Il re domanda: va tutto bene?» Jehu rispose: «Che cosa ti importa se va tutto bene? Passa dietro di me». La sentinella annunciò la cosa, dicendo: «Il messaggero è giunto da essi, ma non è tornato». Il re inviò un altro cavaliere, giunto che fu da essi, disse: «Il re domanda: va tutto bene?» Jehu rispose: «Che cosa ti importa se va tutto bene? Passa dietro di me». La sentinella annunciò la cosa, dicendo: «È giunto da essi, ma non è tornato. La maniera di guidare è quella di Jehu, figlio di Nimsi. Guida, infatti, da pazzo». Allora Joram ordinò: «Attaccate i cavalli». Li attaccarono al suo carro, e Joram, re di Israele, e Acazia, re di Giuda, uscirono ciascuno sul proprio carro per andare incontro a Jehu, e lo trovarono nel campo di Nabotte di Israele. Non appena Joram vide Jehu, gli domandò: «Va tutto bene, Jehu?» Quelli rispose: «Che cos'è questo va tutto bene? Fin quando durano le prostituzioni di tua madre Jezabele e i suoi numerosi sortilegi?» Allora Joram voltò il carro e si diede alla fuga dopo aver detto ad Acazia: «Tradimento, Acazia!» Ma Jehu impugnò l'arco, colpì Joram tra le spalle e la freccia trapassò il cuore del re, che stramazzò sul carro. Poi disse a Bidkar, suo scudiero: «Prendilo e gettalo in qualche parte del campo di Nabotte di Israele. Mi ricordo, infatti, che mentre tu ed io cavalcavamo dietro suo padre Acab, il Signore pronunciò contro di lui questa sentenza: lo giuro, ieri ho visto il sangue di Nabotte e dei suoi figli. Oracolo del Signore, ti ripagherò in questo stesso campo. Oracolo del Signore. Ora prendilo e gettalo nel campo secondo la parola del Signore». Acazia, re di Giuda, vedendo ciò, fuggì per la strada di Bet-Gan, però Jehu lo inseguì ed ordinò: «Colpite anche lui». Lo colpirono sul carro, lungo la salita di Gur, che è vicino ad Ibleam. Riuscì a rifugiarsi a Megiddo, ma qui morì. Allora i suoi servi lo trasportarono a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo sepolcro assieme ai suoi antenati nella città di Davide. Acazia era divenuto re di Giuda nell'anno undecimo di Joram, figlio di Acab. Jehu si recò a Israele. Saputo che l'ebbe, Jezabele si imbellettò gli occhi, si ornò la testa e s'affacciò alla finestra. Mentre Jehu varcava la porta, ella disse: «Va tutto bene, o Zimri, assassino del suo signore?» Jehu alzò gli occhi verso la finestra e disse: «Chi è con me? Chi?» Nel frattempo, due o tre eunuchi si erano sporti fuori verso di lui e gli ordinò: «Gettatela giù». Essi la gettarono. Il suo sangue spruzzò i muri e i cavalli, e Jehu le passò sopra il corpo. Poi entrò, mangiò e bevve. Infine ordinò: «Occupatevi di quella maledetta e datele sepoltura, perché è figlia di re». Andarono a seppellirla, ma di lei non trovarono che il cranio, i piedi e le palme delle mani. Tornati ne informarono Jehu, che esclamò: «È la parola che il Signore ha pronunciato per mezzo del suo servo Elia il Tisbita. Nel campo di Israele i cani divoreranno la carne di Gezabele. Il cadavere di Gezabele sarà come sterco sulla superficie della campagna nel campo di Israele, cosicché non si potrà più dire «Costei è Gezabele». Acab aveva in Samaria 70 figli. Jehu perciò scrisse delle lettere, poi le inviò a Samaria ai capi della città, agli anziani e ai tutori dei figli di Acab. Vi si diceva: «Ora, quando vi giungerà questa lettera, avete con voi i figli del vostro signore, avete i carri e i cavalli, le città fortificate e le armi. Vedete tra i figli del vostro signore chi è il migliore e il più degno. Ponetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro signore». Ma quelli ebbero gran paura e dissero: «Ecco, due re non han potuto tenergli fronte, come potremo farlo noi?» Perciò il sovrintendente del palazzo, il governatore della città, gli anziani e i tutori mandarono a dire a Jehu: «Noi siamo tuoi servi, faremo tutto quello che ci ordinerai, ma non proclameremo re nessuno. Fa quello che parrà bene ai tuoi occhi». Allora Jehu scrisse loro una seconda lettera in cui si diceva: «Se siete con me e volete ascoltare la mia voce, prendete i capi dei figli del vostro signore e domani a quest'ora venite da me, a Israele». Ora i figli del re erano 70 e ciascuno di essi stava con i magnati della città che li allevavano. Come la lettera giunse a loro, essi presero i figli del re, li sgozzarono tutti e 70, posero le loro teste in ceste e le mandarono a Jehu in Israele. Il messaggero venne ad annunziare a Jehu: «Hanno portato le teste dei figli del re». Questi disse: «Mettetele in due mucchi all'ingresso della porta fino a domani mattina». Al mattino egli uscì e, stando in piedi, disse a tutto il popolo: «Voi non siete colpevoli. Ecco, sono stato io che ho cospirato contro il mio signore e l'ho assassinato. Ma chi ha ucciso tutti costoro? Sappiate dunque che niente cadrà in terra della parola che il Signore ha pronunciato contro la casa di Acab. Il Signore, infatti, ha realizzato quello che aveva detto per mezzo del suo servo Elia». Jehu poi uccise tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab a Israele, tutti i suoi magnati, i suoi familiari, i suoi sacerdoti, cosicché non ne risparmiò neppure uno. Quindi si levò e si diresse a Samaria. Mentre andava per la strada a Bet-Eched dei pastori, Jehu trovò i fratelli di Acazia, re di Giuda, i quali domandò: «Chi siete?» Quelli risposero: «Siamo fratelli di Acazia e siamo discesi a salutare i figli del re e i figli della regina». Allora ordinò: «Prendeteli vivi». Li presero vivi e li sgozzò presso il pozzo di Bet-Eched, in numero di 42. Non ne risparmiò neppure uno. Partito di là, trovò Jonadab, figlio di Recab, che gli veniva incontro. Lo salutò e gli disse: «Il tuo cuore è sincero come il mio cuore lo è con il tuo?» Jonadab rispose: «Sì. Se lo è, dammi la tua mano». Quello gliela diede, e allora Jehu lo fece salire con sé sul carro e gli disse: «Vieni con me e vedrai il mio zelo per il Signore». Lo portò con sé sul suo carro. Arrivato a Samaria, uccise tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab in Samaria, fino alla sua distruzione, secondo la parola che il Signore aveva detto a Elia. Jehu radunò tutto il popolo e gli disse: «Acab ha adorato poco Baal, ma Jehu lo adorerà molto di più. Ora chiamatemi tutti i profeti di Baal e tutti i suoi sacerdoti. Nessuno manchi, perché devo offrire un grande sacrificio a Baal. Chiunque mancherà non rimarrà in vita». Jehu però agiva con astuzia per sterminare gli adoratori di Baal. Poi Jehu ordinò convocate una santa assemblea in onore di Baal. Essi la convocarono. Jehu mandò messaggeri per tutto Israele e tutti gli adoratori di Baal vennero senza eccezione alcuna e si presentarono al tempio di Baal, che fu pieno da un capo all'altro. Allora ordinò al guardiano delle vesti: «Tira fuori le vesti per tutti gli adoratori di Baal». Quello tirò fuori le vesti per loro. Allora Jehu, in compagnia di Jonadab, figlio di Recab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal: «Assicuratevi che qui in mezzo a voi non ci siano adoratori del Signore, bensì soltanto adoratori di Baal». Poi si accostarono per compiere i sacrifici e gli olocausti. Jehu però aveva collocato fuori 80 uomini ai quali aveva detto: «Se qualcuno di voi lascerà scappare uno solo degli uomini che io vi metto nelle mani, pagherà con la vita». Terminato che ebbe l'olocausto, Jehu ordinò alle guardie e agli scudieri: «Andate ed uccideteli, nessuno scampi». Quelli li passarono a fil di spada. Le guardie e gli scudieri arrivarono fino alla cella del tempio di Baal. Portarono fuori la stele del tempio di Baal e la bruciarono. Demolirono l'altare di Baal. Demolirono anche il tempio di Baal e vi posero delle latrine che restano fino ad oggi. Così Jehu sradicò Baal da Israele. Tuttavia non abbandonò i peccati che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere ad Israele, cioè i torelli d'oro che si trovavano in Betel e in Dan. Il Signore disse a Jehu: «Dal momento che hai agito bene, facendo ciò che è retto ai miei occhi, e hai fatto della casa di Acab tutto quello che avevo in cuore, i tuoi figli siederanno fino alla quarta generazione sul trono di Israele». Ma Jehu non si curò di osservare di tutto cuore la legge del Signore, Dio di Israele, né abbandonò i peccati che Geroboamo aveva fatto commettere ad Israele. In quel tempo il Signore incominciò a mutilare Israele. Infatti Cazael colpì gli israeliti su tutti i confini, dal Giordano verso Oriente, tolse loro tutta la regione di Galaad, di Gad, di Ruben e di Manasse, da Aroer, che si trova sul torrente Arnon, fino al Galaad e al Basan. Le altre gesta di Jehu e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Israele? Jehu s'addormentò assieme ai suoi antenati e fu sepolto a Samaria. Al suo posto regnò suo figlio Ioacaz. Il periodo di tempo in cui Jehu regnò su Israele a Samaria fu di 28 anni. Quando Atalia, madre di Acazia, vide che suo figlio era morto, si levò e sterminò tutta la stirpe reale. Ma Josebah, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo di mezzo ai figli del re che stavano per essere uccisi, e lo mise assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Così lo nascose ad Atalia e non fu ucciso. Rimase nascosto con lei nel tempio del Signore per 6 anni, mentre Atalia regnava sul paese. Il 7° anno, Ioiada mandò a prendere i capi centuria dei cari e delle guardie, li fece venire presso di sé nel tempio del Signore e stipulò con loro un patto. Dopo che li ebbe fatti giurare nel tempio del Signore, mostrò loro il figlio del re. Poi impartì loro questo ordine: «Questa è la cosa che dovrete fare. La terza parte di voi che entra al sabato in servizio e monta la guardia al palazzo reale, e gli altri due vostri manipoli, cioè tutti quelli che escono al sabato dal servizio, monteranno la guardia nella casa del Signore presso il re. Così voi farete un cerchio attorno al re, ciascuno con le armi in pugno, e chiunque tenterà di rompere le fila sia ucciso. State vicino al re in tutti i suoi movimenti». I capi centuria fecero tutto quello che il sacerdote Ioiada aveva loro comandato. Ciascuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio al sabato, assieme a quelli che uscivano al sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote diede ai capi centuria le lance e gli scudi del re Davide che si trovavano nel tempio del Signore. Le guardie si schierarono, ciascuna con le armi in pugno, dal lato sud del tempio fino al lato nord, davanti all'altare e al tempio, intorno al re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re, gli impose il diadema e i braccialetti, lo proclamò re e lo unse. I presenti batterono le mani e gridarono: «Viva il re!» All'udire il frastuono del popolo, Atalia andò verso di esso nel tempio del Signore. Osservò e vide il re sul podio, secondo l'usanza, con i capi e i trombettieri presso di lui. Tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Allora Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Tradimento, tradimento!» Il sacerdote Ioiada ordinò ai capi centuria che comandavano l'esercito: «Conducetela fuori del recinto sacro e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non venga uccisa nel tempio del Signore». Quelli la catturarono e quando giunse al palazzo reale per la porta dei cavalli, vi fu uccisa. Ioiada stipulò un patto tra il Signore, il re e il popolo affinché questi diventasse un popolo del Signore. Così pure tra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra si recò al tempio di Baal e lo demolì, frantumò gli altari e le immagini e uccise davanti agli altari Mattan, sacerdote di Baal. Il sacerdote Ioiada stabilì dei posti di sorveglianza nel tempio del Signore. Poi prese con sé i capi centuria e i carii, le guardie e tutto il popolo della terra. Essi fecero scendere il re nel tempio del Signore. Entrato che fu nel palazzo reale per la porta delle guardie, egli si sedette sul trono regale. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Quanto ad Atalia, fu uccisa di spada nel palazzo reale. Quando divenne re, Ioas aveva 7 anni. Egli incominciò a regnare nell'anno settimo di Jehu e regnò 40 anni. Padre si chiamava Sibia da Bersabea. Ioas fece ciò che è retto agli occhi del Signore per tutta la sua vita, perché il sacerdote Ioiada l'aveva istruito. Soltanto non furono rimosse le alture, cosicché il popolo offriva sacrifici e bruciava aromi su di esse. Ioas disse ai sacerdoti: «Tutto il denaro consacrato che viene portato al tempio del Signore, il denaro di chi diventa maggiorenne, il denaro fissato per il riscatto delle persone e tutto il denaro che ognuno desidera portare al tempio del Signore, i sacerdoti lo prendano, ciascuno dal proprio conoscente, e riparino i danni del tempio dovunque si trovino». Tuttavia, nell'anno 23° del re Ioas, i sacerdoti non avevano ancora riparato i danni del tempio. Allora il re Ioas convocò il sacerdote Ioiada e i sacerdoti e disse loro: «Perché non riparate i danni del tempio? D'ora innanzi non prenderete più il denaro dai vostri conoscenti, ma lo darete a me per i danni del tempio». I sacerdoti acconsentirono a non ricevere più denaro dal popolo e a non riparare i danni del tempio. Il sacerdote Ioiada prese una cassa, praticò un foro nel coperchio e la collocò a fianco dell'altare, alla destra di chi entra nel tempio del Signore. I sacerdoti, che custodivano l'ingresso, vi ponevano dentro tutto il denaro portato nel tempio del Signore. Quando essi vedevano che nella cassa c'era molto denaro, saliva lo scriba del re assieme al gran sacerdote, si raccoglieva e si contava il denaro che si trovava nel tempio del Signore. Controllato che avevano il denaro, lo consegnavano nelle mani dei capomastri addetti al Tempio del Signore, i quali lo passavano ai carpentieri e agli operai che riparavano il Tempio del Signore, ai muratori, ai tagliapietre, per acquistare legname e pietre squadrate destinate a riparare i danni del Tempio del Signore, e cioè per tutte le spese necessarie ai restauri del Tempio. Con il denaro portato nel Tempio del Signore non si facevano né bacini d'argento, né coltelli, né aspersori, né trombe, né alcun oggetto d'oro e d'argento, bensì lo si dava agli esecutori dei lavori perché restaurassero il Tempio del Signore. Non si controllavano neppure le persone nelle cui mani era consegnato il denaro che doveva essere trasmesso agli esecutori dei lavori, perché essi agivano con onestà. Il denaro per il sacrificio di riparazione e quello per il sacrificio per il peccato non era destinato al Tempio del Signore, bensì era riservato ai sacerdoti. In quel tempo Cazzael, re di Aram, salì per combattere contro Gat e la espugnò. Poi si accinse a salire contro Gerusalemme. Ma Joas, re di Giuda, prese tutti i doni che i re di Giuda, suoi antenati, Giosafat, Ioram e Acazia avevano consacrato, i suoi sacri donativi e tutto l'oro ritrovato nei tesori del Tempio del Signore e del Palazzo Reale, e lo inviò a Cazzael, re di Aram. Questi allora si allontanò da Gerusalemme. Le altre gesta di Joas e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? I suoi subalterni si sollevarono, ordirono una congiura e uccisero Joas a Bet-Millo, dove egli era disceso. Jozacar, figlio di Simeat, e Jozabad, figlio di Somer, suoi subalterni, lo colpirono, ed egli morì. Lo seppellirono assieme ai suoi antenati nella città di Davide, e al suo posto regnò suo figlio Amazia. L'anno 23esimo di Joas, figlio di Acazia, re di Giuda, Joacaz, figlio di Jehu, divenne re di Israele, fece ciò che è male agli occhi del Signore e imitò il peccato che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere ad Israele, e non se ne staccò. Allora l'ira del Signore divampò contro Israele e li abbandonò in mano di Cazzael, re di Aram, e in mano di Ben-Hadad, figlio di Cazzael, per tutto il tempo. Joacaz però si propiziò il Signore, che lo esaudì perché vide l'oppressione di Israele. Infatti il re di Aram li aveva oppressi. Il Signore diede ad Israele un salvatore che li liberò dalla mano di Aram. Così i figli di Israele abitarono come prima nelle loro tende. Non si staccarono però dal peccato della casa di Geroboamo che questi aveva fatto commettere ad Israele, ma camminarono in esso. Persino il palo sacro rimase in piedi a Samaria. Pertanto il Signore non lasciò a Joacaz altra truppa al di fuori di 50 cavalieri, 10 carri e 10.000 fanti. Il re di Aram, infatti, li aveva sterminati e ridotti come polvere da calpestare. Le altre gesta di Joacaz, tutte le sue azioni e il suo coraggio, non sono forse descritti nel libro degli annali dei re di Israele? Joacaz s'addormentò con i suoi antenati e lo seppellirono a Samaria. Al suo posto regnò suo figlio Joas. L'anno 37esimo di Joas, re di Giuda, Joas, figlio di Joacaz, divenne re di Israele in Samaria, dove regnò per 16 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, né si staccò dal peccato che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere ad Israele, bensì camminò in esso. Le altre gesta di Joas, tutte le sue azioni e il suo coraggio, quando combatté contro Amazia, re di Giuda, non sono forse descritti nel libro degli annali dei re di Israele? Joas s'addormentò con i suoi antenati, e Geroboamo s'assise sul suo trono. Joas fu sepolto a Samaria assieme ai re di Israele. Or Eliseo s'ammalò di quella malattia di cui doveva morire. Joas, re di Israele, discese presso di lui e, piangendo in sua presenza, gli disse: padre mio, carro di Israele e sua pariglia. Eliseo gli ordinò: prendi arco e frecce. Egli prese arco e frecce. Poi Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. Egli lo impugnò. Allora Eliseo pose le sue mani sulle mani del re e gli disse: apri la finestra verso l'oriente. Egli l'aprì. Eliseo soggiunse ancora: tira. Egli tirò. Allora il profeta disse: freccia vittoriosa del Signore, freccia vittoriosa contro Aram. Tu batterai Aram ad Afek fino allo sterminio. Poi soggiunse: prendi le frecce. Egli le prese. Di nuovo ordinò al re di Israele: colpisci il suolo. Egli lo colpì per 3 volte e poi si fermò. Allora l'uomo di Dio si irritò contro di lui e gli disse: se tu avessi colpito 5 o 6 volte, allora avresti colpito Aram fino allo sterminio. Ora invece colpirai Aram solo per 3 volte. Eliseo morì e lo seppellirono. Or delle bande di Moab facevano incursioni nel paese ogni anno. Al vedere le bande, alcuni che erano intenti a seppellire un morto gettarono il cadavere nel sepolcro di Eliseo e si allontanarono. Non appena il morto toccò le ossa di Eliseo, riebbe la vita e si drizzò sui suoi piedi. Casael, re di Aram, oppresse Israele durante tutta la vita di Joacaz. Il Signore però fece loro grazia, ne ebbe compassione e si volse verso di loro a motivo del patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Non volle sterminarli, né, fino ad oggi, li rigettò dal suo cospetto. Cazael, re di Aram, morì e Ben-Hadad, suo figlio, regnò al suo posto. Allora Joas, figlio di Joacaz, riprese dalla mano di Ben-Hadad, figlio di Cazael, le città che quest'ultimo aveva tolte in combattimento a suo padre Joacaz. Per 3 volte Joas lo sconfisse e così riebbe le città di Israele. Il 2º anno di Joas, figlio di Joacaz, re di Israele, divenne re di Giuda Amazia, figlio di Joas. Al suo avvento al trono egli aveva 25 anni e regnò 29 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Joaddain da Gerusalemme. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, però non come Davide suo padre. Imitò in tutto suo padre Joas. Tuttavia le alture non furono rimosse, di modo che il popolo continuava ad offrire sacrifici e a bruciare aromi sulle alture. Quando il potere reale fu saldo in sua mano, egli uccise i suoi subalterni che avevano ucciso il re suo padre. Però non uccise i figli degli uccisori, secondo ciò che è scritto nel libro della legge di Mosè, in cui il Signore ha ordinato così: non siano fatti morire i padri per i figli, né i figli per i padri, bensì ciascuno deve morire per la sua colpa. Egli batté Edom nella valle del Sale, in tutto 10.000 uomini, ed espugnò in combattimento Sela, a cui diede il nome Yocteel, che perdura fino ad oggi. Allora Amazia inviò messaggeri a Joas, figlio di Jehu, re di Israele, a dirgli: vieni e misuriamoci faccia a faccia. Joas, re di Israele, mandò a dire ad Amazia, re di Giuda: il cardo del Libano mandò a dire al cedro del Libano: concedi tua figlia in sposa a mio figlio. Ma passarono le bestie selvagge del Libano e calpestarono il cardo. Tu hai duramente battuto Edom e il tuo cuore si è inorgoglito. Goditi la tua gloria, ma rimani a casa tua. Perché vorresti provocare una sciagura e cadere trascinando Giuda con te? Amazia però non prestò ascolto, ed allora Joas, re di Israele, salì ed egli e il re di Giuda si misurarono faccia a faccia a Bet-Semes, che si trova in Giuda. Giuda ebbe la peggio di fronte ad Israele ed ognuno fuggì alla propria tenda. A Bet-Semes Joas, re di Israele, catturò Amazia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Acazia. Poi giunse a Gerusalemme e fece una breccia nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo, per la lunghezza di 400 cubiti. Prese anche tutto l'oro e l'argento, e tutti gli oggetti che si trovavano nel Tempio del Signore e nei tesori del Palazzo Reale, in più ostaggi, e se ne ritornò a Samaria. Le altre gesta di Joas e il suo coraggio con cui ha combattuto Amazia, re di Giuda, non sono forse descritti nel libro degli annali dei re di Israele? Joas s'addormentò con i suoi antenati e fu sepolto in Samaria assieme ai re di Israele. Al suo posto regnò suo figlio Geroboamo. Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, visse ancora 15 anni dopo la morte di Joas, figlio di Joacaz, re di Israele. Le altre gesta di Amazia non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? Fu ordita una congiura contro di lui in Gerusalemme, ed egli fuggì a Lachis, ma lo inseguirono fino a Lachis, dove lo uccisero. Lo trasportarono su cavalli e lo seppellirono in Gerusalemme con i suoi antenati nella città di Davide. Allora tutto il popolo di Giuda prese Azaria, che aveva 16 anni, e lo proclamò re al posto di suo padre Amazia. Dopo che il re si addormentò con i suoi antenati, egli ricostruì Elat, restituendola così a Giuda. L'anno 15° di Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, divenne re a Samaria, dove regnò 41 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, né si staccò da tutti i peccati che Geroboamo aveva fatto commettere ad Israele. Ristabilì il confine di Israele dall'ingresso di Camat fino al mare dell'Araba, secondo la parola che il Signore Dio di Israele aveva detto mediante il suo servo Giona, figlio di Amittai, il profeta di Gat-Chefer. Il Signore, infatti, aveva visto che l'afflizione di Israele era molto amara. Non c'era più né schiavo né libero, né chi venisse in soccorso di Israele. Tuttavia il Signore non aveva deciso di cancellare il nome di Israele di sotto il cielo. Perciò li salvò mediante Geroboamo, figlio di Joas. Le altre gesta di Geroboamo, tutte le sue azioni e il suo coraggio con cui ha combattuto Damasco e stornata da Israele l'ira del Signore, non sono forse descritti nel libro degli annali dei re di Israele? Geroboamo s'addormentò con i suoi antenati e fu sepolto in Samaria con i re di Israele. Al suo posto regnò suo figlio Zaccaria. L'anno 27° di Geroboamo, re di Israele, Azaria, figlio di Amazia, divenne re di Giuda. Al suo avvento al trono egli aveva 16 anni e regnò 52 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jecolia di Gerusalemme. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, imitando tutto quello che aveva fatto suo padre Amazia. Tuttavia le alture non furono rimosse, di modo che il popolo continuava ad offrire sacrifici e a bruciare aromi sulle alture. Il Signore perciò percosse il re, che fu lebbroso fino al giorno della sua morte. Egli abitò in una casa di isolamento e suo figlio Jotam era sovrintendente del palazzo e amministrava la giustizia fra il popolo della terra. Le altre gesta di Azaria e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? Azaria s'addormentò con i suoi antenati e lo seppellirono con essi nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Jotam. L'anno 38° di Azaria, re di Giuda, Zaccaria, figlio di Geroboamo, regnò su Israele in Samaria per 6 mesi. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi antenati. Non si staccò dai peccati che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere ad Israele. Sallum, figlio di Abes, ordì una congiura contro di lui, lo colpì a Ibleam e dopo averlo ucciso regnò al suo posto. Le altre gesta di Zaccaria sono descritte nel libro degli annali dei re di Israele. La sentenza che il Signore aveva pronunciato a Jehu suonava: i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. E così avvenne. Sallum, figlio di Abes, divenne re l'anno 39° di Ozia, re di Giuda, e regnò per un mese a Samaria. Menachem, figlio di Gadi, salì da Tirza e venne a Samaria. Qui colpì Sallum, figlio di Abes, e avendolo ucciso, regnò al suo posto. Le altre gesta di Sallum e la congiura che ha ordito sono descritte nel libro degli annali dei re di Israele. Allora Menachem espugnò Tifsac, uccise tutti quelli che v'erano dentro, devastò i suoi dintorni, incominciando da Tirza, perché non gli avevano aperte le porte. Egli devastò la città e sventrò tutte le donne incinte. L'anno 39° di Azaria, re di Giuda, Menachem, figlio di Gadi, divenne re di Israele e regnò a Samaria per 10 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, non staccandosi dai peccati che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere ad Israele. Nei giorni suoi, Pul, re di Assiria, marciò contro il paese. Allora Menachem diede a Pul 1000 talenti d'argento affinché lo aiutasse a consolidare nella sua mano il potere regale. Menachem fece sborsare il denaro da Israele, cioè da tutti i benestanti, nella misura di 50 sicli d'argento a testa, per darlo al re d'Assiria. Allora il re di Assiria se ne ritornò e non restò là nel paese. Le altre gesta di Menachem e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Israele? Menachem si addormentò con i suoi antenati e al suo posto regnò suo figlio Pecachia. L'anno 50° di Azaria, re di Giuda, Pecachia, figlio di Menachem, divenne re di Israele in Samaria, dove regnò 2 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, non staccandosi dai peccati che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere ad Israele. Pecach, figlio di Romelia, suo scudiero, ordì una congiura contro di lui e lo colpì a Samaria, nella torre del palazzo reale, avendo con sé 50 uomini di Galaad. Dopo averlo ucciso, regnò al suo posto. Le altre gesta di Pecachia e tutte le sue azioni sono descritte nel libro degli annali dei re di Israele. L'anno 52° di Azaria, re di Giuda, Pecach, figlio di Romelia, divenne re di Israele in Samaria, dove regnò per 20 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, non staccandosi dai peccati che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere ad Israele. Al tempo di Pecach, re di Israele, Tiglat-Pileser, re di Assiria, venne e si impadronì di Ion, Abel-Bet-Maaca, Janoach, Kadesh, Azor, Galaad, la Galilea, l'intera regione di Neftali, e ne deportò gli abitanti in Assiria. Osea, figlio di Ela, ordì una congiura contro Pecach, figlio di Romelia, lo colpì e dopo averlo ucciso divenne re al suo posto. Le altre gesta di Pecach e tutte le sue azioni sono descritte nel libro degli annali dei re di Israele. Il secondo anno di Pecach, figlio di Romelia, Jotam, figlio di Azaria, divenne re di Giuda. Al suo avvento al trono egli aveva 25 anni e regnò 16 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jerusa, figlia di Zadok. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, imitando quello che aveva fatto suo padre Azaria. Tuttavia le alture non furono rimosse, di modo che il popolo continuava ad offrire sacrifici e a bruciare aromi sulle alture. Egli costruì la porta superiore del Tempio del Signore. Le altre gesta di Jotam e tutte le sue azioni che gli fece non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? In quei giorni il Signore cominciò ad inviare contro Giuda Rezin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia. Jotam s'addormentò con i suoi antenati e fu sepolto con loro nella città di Davide, suo padre. Al suo posto regnò suo figlio Acaz. L'anno diciassettesimo di Pekah, figlio di Romelia, divenne re di Giuda Acaz, figlio di Jotam. Al suo avvento al trono, Acaz aveva 20 anni e regnò 16 anni in Gerusalemme. Egli non fece ciò che è retto agli occhi del Signore Dio suo, come aveva fatto invece il suo antenato Davide. Imitò la condotta dei re di Israele e fece persino bruciare suo figlio secondo le usanze abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. Egli offrì sacrifici e bruciò aromi sulle alture, sulle colline e sotto ogni albero frondoso. Allora Rezin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, salirono per combattere contro Gerusalemme, l'assediarono, ma non riuscirono ad espugnarla. In quel tempo il re di Edom riconquistò Elat, la riunì ad Edom e ne cacciò i giudei. Gli edomiti vennero ad Elat e vi sono rimasti fino ad oggi. Acaz mandò dei messaggeri a Tiglat-Pileser, re di Assiria, a dirgli: «Io sono tuo servo e tuo figlio, vieni a salvarmi dalla mano del re di Aram e dalla mano del re di Israele che si sono levati contro di me». Acaz prese l'argento e l'oro che si trovava nel tempio del Signore e nei tesori del palazzo reale e lo inviò in omaggio al re d'Assiria. Il re di Assiria gli prestò ascolto, salì contro Damasco e se ne impadronì. Deportò gli abitanti a Kir e fece morire Rezin. Il re Acaz andò a Damasco per incontrare Tiglat-Pileser, re di Assiria, e vide l'altare che si trovava a Damasco. Allora il re Acaz inviò al sacerdote Uria le misure dell'altare e il suo modello, con tutti i particolari della sua struttura. Il sacerdote Uria costruì l'altare secondo tutto quello che il re Acaz gli aveva comunicato da Damasco. Il sacerdote Uria fece così prima che il re Acaz tornasse da Damasco. Tornato che fu da Damasco, il re vide l'altare, gli si avvicinò e vi ascese. Vi bruciò il suo olocausto e la sua oblazione, sparse la sua libagione e spruzzò l'altare con il sangue dei suoi sacrifici di comunione. Quanto all'altare di bronzo che si trovava davanti al Signore, lo rimosse dal suo posto davanti al tempio tra l'altare nuovo e il tempio del Signore e lo collocò accanto al nuovo altare, a settentrione. Poi il re Acaz ordinò al sacerdote Uria: «Sull'altare grande brucerai l'olocausto del mattino e l'oblazione della sera, l'olocausto del re e la sua oblazione, l'olocausto di tutto il popolo della terra, le sue oblazioni e libagioni. Vi spruzzerai tutto il sangue dell'olocausto e tutto il sangue di qualsiasi sacrificio. All'altare di bronzo penserò io stesso». Il sacerdote Uria fece tutto quello che il re Acaz aveva ordinato. Il re Acaz smontò le basi e tolse da esse i bacini, fece scendere il mare di bronzo dai buoi che vi stavano sotto e lo collocò sul selciato di pietre. Per riguardo al re di Assiria soppresse dal tempio il palco del trono che avevano costruito nel tempio e l'ingresso esterno del re. Le altre gesta di Acaz e tutto quello che gli fece non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? Acaz s'addormentò con i suoi antenati e fu sepolto con loro nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Ezechia. L'anno dodicesimo di Acaz, re di Giuda, Osea, figlio di Ela, divenne re di Israele in Samaria, dove regnò per 9 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, non però come i re di Israele che furono prima di lui. Salmanassar, re di Assiria, salì contro Osea che si sottomise e gli pagò un tributo. Il re di Assiria però scoprì che Osea lo tradiva. Aveva infatti inviato dei messaggeri a So, re d'Egitto, e non aveva più consegnato il tributo al re di Assiria come era solito fare ogni anno. Allora il re di Assiria lo fece arrestare e lo fece rinchiudere in carcere. Il re d'Assiria invase tutto il paese e giunse a Samaria, cui pose l'assedio per 3 anni. L'anno 9 di Osea, il re di Assiria espugnò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac, sul Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Questo accadde perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, sottraendoli alla mano del Faraone, re d'Egitto. Essi, infatti, avevano adorato gli dei stranieri, avevano seguito le usanze delle genti che il Signore aveva cacciato di fronte ai figli di Israele e le usanze che i re di Israele avevano introdotto. I figli di Israele macchinarono contro il Signore, loro Dio, cose che non erano rette. Si costruirono alture in ogni loro città, dalla torre di guardia fino alla città fortificata. Si eressero stele e pali sacri su ogni collina elevata e sotto ogni albero frondoso. Là, su ogni altura, alla maniera delle genti che il Signore aveva cacciato di fronte ad essi, offrirono sacrifici e fecero cose malvagie da irritare il Signore. Essi adorarono gli idoli, sebbene il Signore avesse detto loro: «Non fate una simile cosa». Eppure il Signore, tramite tutti i profeti e tutti i veggenti, aveva ingiunto ad Israele e a Giuda: «Convertitevi dalla vostra malvagia condotta, osservate i miei comandamenti e i miei statuti secondo tutta la legge che ho prescritto ai vostri padri e che vi ho comunicato mediante i profeti, i miei servi». Essi però non prestarono ascolto e indurirono la loro cervice, come l'avevano indurita i loro padri che non erano stati fedeli al Signore loro Dio. Disprezzarono i suoi statuti, l'alleanza che egli aveva concluso con i loro padri e gli ordini che egli aveva loro dato. Andarono dietro alla vacuità e divennero essi stessi vacui, imitando le genti che li circondavano, mentre il Signore aveva loro comandato di non agire come quelle. Rigettarono tutti i precetti del Signore loro Dio e si fecero idoli fusi, i due torelli, si fecero pure pali sacri e si prostrarono a tutto l'esercito del cielo e venerarono Baal. Inoltre bruciarono i loro figli e le loro figlie, praticarono la divinazione e gli incantesimi e si prestarono a compiere ciò che è male agli occhi del Signore, così da provocarne lo sdegno. Il Signore si irritò grandemente contro Israele e lo cacciò dal suo cospetto. Non rimase che la sola tribù di Giuda. Ma neppure Giuda osservò i precetti del Signore suo Dio ed imitò le usanze che Israele aveva praticato. Perciò il Signore rigettò tutta la stirpe di Israele, li afflisse e li diede in mano dei saccheggiatori fino a che non li cacciò dal suo cospetto. Egli infatti separò Israele dalla casa di Davide ed essi proclamarono re Geroboamo, figlio di Nebat. Geroboamo allontanò Israele dal Signore e lo indusse a commettere un grave peccato. I figli di Israele imitarono tutti i peccati che Geroboamo aveva commesso e non si staccarono da essi fino a che il Signore non cacciò Israele dal suo cospetto, come aveva predetto per mezzo di tutti i profeti suoi servi, e deportò Israele dalla sua terra in Assiria, dove si trova fino ad oggi. Il re di Assiria mandò gente da Babilonia, da Cuta, da Avva, da Camat e da Sefarvaim e le stabilì nelle città della Samaria al posto dei figli di Israele. Quelli presero possesso della Samaria e abitarono nelle sue città. All'inizio del loro stanziamento colà esse non veneravano il Signore, perciò il Signore mandò contro di loro dei leoni che ne fecero un massacro. Allora dissero al re di Assiria: le popolazioni che tu hai deportato ed hai stabilito nelle città della Samaria non conoscono il rito del Dio del paese. Questi ha mandato contro di essi dei leoni che li fanno morire perché essi non conoscono il rito del Dio del paese. Il re di Assiria diede quest'ordine: fatevi ritornare uno dei sacerdoti che avete deportato di là, egli vada, vi abiti e insegni loro i riti del Dio del paese. Uno dei sacerdoti che erano stati deportati da Samaria venne a stabilirsi a Betel e insegnò loro come dovevano venerare il Signore. Ogni popolazione però si fece il proprio Dio e lo collocò nei templi delle alture che i samaritani s'erano costruiti. Ogni popolazione agì così nelle città in cui abitava. Gli uomini di Babilonia fecero Succot-Benot, gli uomini di Cuta fecero Nergal e gli uomini di Kamat fecero Asima. Gli avviti fecero Nibkaz e Tartak. I sefarviti bruciarono i loro figli in onore di Adram-Melek e di Anam-Melek, divinità di Sefarvaim. Essi veneravano anche il Signore e si fecero dei sacerdoti sulle alture provenienti dalla loro cerchia, i quali officiavano per loro nei templi delle alture. Essi veneravano il Signore assieme ai loro dei, secondo il rito delle genti da cui erano stati deportati. A tutt'oggi essi agiscono secondo i loro riti antichi. Pertanto non venerano il Signore, né agiscono secondo i suoi statuti ed i suoi riti, né secondo la legge e il comando che il Signore ha trasmesso ai figli di Giacobbe, cui impose il nome di Israele. Il Signore, infatti, aveva stipulato con essi un'alleanza e aveva loro ordinato: non venerate gli dei stranieri, non prostratevi davanti ad essi, non tributate loro il culto e non offrite loro sacrifici, bensì venerate solo il Signore che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e braccio disteso. Davanti a Lui solo prostratevi e a Lui solo offrite sacrifici. Osservate gli statuti e i decreti, la legge e il comando che egli scrisse per voi affinché li pratichiate tutti i giorni. Ma non venerate gli dei stranieri. Non dimenticate il patto che ho stipulato con voi, né venerate gli dei stranieri. Venerate soltanto il Signore vostro Dio ed egli vi libererà dalla mano di tutti i vostri nemici. Essi però non prestarono ascolto, ma continuarono ad agire secondo i loro antichi riti. Così quelle popolazioni veneravano il Signore e nello stesso tempo rendevano il culto ai loro idoli. Anche i loro figli e i figli dei loro figli continuano a fare fino ad oggi come avevano fatto i loro padri. Il terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, divenne re di Giuda Ezechia, figlio di Acaz. Al suo avvento sul trono egli aveva 25 anni e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, imitando tutto quello che aveva fatto il suo antenato Davide. Rimosse le alture, spezzò le stele, tagliò il palo sacro e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva costruito. Infatti, fino a quel tempo, i figli di Israele avevano offerto sacrifici d'incenso e lo chiamavano Nekustan. Egli ripose tutta la sua fiducia nel Signore Dio di Israele, e dopo di lui non ci fu tra tutti i re di Giuda nessuno come lui, come non c'era stato neanche prima. Si mantenne legato al Signore senza minimamente staccarsi e osservò i comandamenti che il Signore aveva imposto a Mosè. Il Signore fu con lui, cosicché egli ebbe successo in tutto ciò che intraprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più soggetto. Colpì i Filistei e il loro territorio fino a Gaza, dalla torre di guardia fino alla città fortificata. L'anno quarto del re Ezechia, cioè il settimo di Osea, figlio di Ela, re di Israele, Salmanassar, re di Assiria, salì contro Samaria e le pose l'assedio. Dopo 3 anni la conquistò. Quando Samaria fu conquistata, era l'anno sesto di Ezechia, cioè l'anno nono di Osea, re di Israele. Il re di Assiria deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calach, lungo il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Questo avvenne perché non avevano ascoltato la voce del Signore, loro Dio, ed avevano trasgredito il suo patto. Tutto quello che Mosè, servo del Signore, aveva ordinato, essi non l'avevano né ascoltato né messo in pratica. L'anno 14° del re Ezechia, Sennacherib, re di Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le espugnò. Allora Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re di Assiria, a Lachis: «Ho sbagliato, ritirati da me, ed io accetterò tutto quello che mi imporrai». Il re di Assiria impose ad Ezechia, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechia consegnò tutto l'argento che si trovava nel tempio del Signore e nei tesori del palazzo reale. In quell'occasione Ezechia spogliò le porte del santuario del Signore e gli stipiti di metallo prezioso di cui egli li aveva rivestiti, e lo consegnò al re di Assiria. Il re di Assiria mandò da Lachis a Gerusalemme presso il re Ezechia il generalissimo, il grande eunuco e il gran coppiere con una forte schiera. Essi salirono, vennero a Gerusalemme e si fermarono all'acquedotto della piscina superiore, che è sulla strada del campo del Gualchieraio. Chiamarono il re. Allora uscirono loro incontro il maestro di palazzo Eliachim, figlio di Chelchia, lo scriba Sebna e l'araldo Ioach, figlio di Asaf. Il gran coppiere disse loro: «Riferite ad Ezechia, così parla il re di Assiria. Che fiducia è mai quella a cui ti affidi? Pensi tu forse che consiglio e coraggio per far la guerra siano soltanto parole vuote? In chi dunque confidi per esserti ribellato a me? Ora ecco che hai posto la tua fiducia nell'Egitto, in questo pezzo di canna rotta che penetra nella mano di chi vi si appoggia e la ferisce. Tale è appunto il faraone re d'Egitto per tutti coloro che hanno posto la fiducia in lui. Voi forse mi direte: noi poniamo la nostra fiducia nel Signore Dio nostro, ma egli non è forse quello di cui Ezechia ha eliminato le alture e gli altari quando ordinò a Giuda e a Gerusalemme: voi dovete prostrarvi soltanto davanti a questo altare in Gerusalemme? Ora fa una scommessa con il mio signore, il re d'Assiria. Io ti darò 2000 cavalli se tu sei capace di procurarti coloro che li montino. Come potrai dunque mettere in fuga uno solo dei più piccoli subalterni del mio signore? Eppure tu poni la tua fiducia nell'Egitto per avere carri e cavalieri. Non è stato forse dietro ordine del Signore che io sono salito contro questo luogo per distruggerlo? Il Signore infatti mi ha ordinato: sali contro questo paese e distruggilo. Allora Eliachim, figlio di Chelchia, Sebna e Ioach dissero al gran coppiere: parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo, ma non parlarci in ebraico, capito dal popolo che si trova sulle mura. Ma il gran coppiere replicò ad essi: forse che il mio signore mi ha inviato a dire queste cose al tuo signore o a te, e non invece agli uomini seduti sulle mura, condannati a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina con voi? Il gran coppiere, pertanto, stando in piedi, gridò a gran voce in ebraico e disse: udite la parola del gran re, del re di Assiria. Così parla il re: non lasciatevi ingannare da Ezechia, perché egli non potrà liberarvi dalla mia mano, e neppure Ezechia vi ispiri fiducia nel Signore col dirvi: certamente il Signore ci libererà e questa città non sarà consegnata in mano al re di Assiria. Non ascoltate Ezechia, poiché così dice il re di Assiria: fate la pace con me, arrendetevi a me, e ciascuno mangerà della propria vite e del proprio fico, e berrà l'acqua della propria cisterna, fino a che io non venga e vi porti in un paese come il vostro, un paese di grano e di mosto, una terra di pane e di vigne, una terra di olivi, di olio e di miele. Voi vivrete e non morirete. Non ascoltate Ezechia, perché egli vi vuole ingannare, dicendo: il Signore ci libererà. Forse gli dei delle genti hanno liberato il proprio paese dalla mano del re di Assiria? Dove sono gli dei di Camate e di Arpad? Dove sono gli dei di Sefarvaim, di Ena e di Avva? Dove sono gli dei di Samaria? Forse che hanno liberato Samaria dalla mia mano? Chi tra tutti gli dei dei vari paesi ha liberato il proprio paese dalla mia mano, perché il Signore possa liberare Gerusalemme dalla mia mano? Il popolo tacque e non gli rispose nulla, perché l'ordine del re diceva: non rispondetegli. Allora il maestro di palazzo Eliachim, figlio di Chelchia, lo scriba Sebna e l'araldo Joach andarono da Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole del gran coppiere. Udita che ebbe la cosa, il re Ezechia si stracciò le vesti, si cinse di sa di palazzo Eliachim, lo scriba Sebna e gli anziani dei sacerdoti, cinti di sacco dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Questi gli dissero: così parla Ezechia: giorno di angoscia, di castigo e di obbrobrio è questo, perché i figli stanno per nascere, ma la partoriente è priva di forza. Che il Signore, tuo Dio, possa aver udito tutte le parole del gran coppiere che il re di Assiria, suo Signore, ha mandato per ingiuriare il Dio vivente, e punisca a motivo delle parole che il Signore, tuo Dio, ha udito. Tu, pertanto, innalza una preghiera in favore del resto che ancora sussiste. I servi del re Ezechia vennero da Isaia e questi disse loro: direte al vostro Signore: così parla il Signore. Non temere per le parole che hai udito e con le quali i servi del re di Assiria mi hanno oltraggiato. Ecco, io porrò in lui uno spirito, ed egli, udita che avrà una certa notizia, ritornerà al suo paese, dove lo farò cadere di spada. Il gran coppiere ritornò e trovò il re di Assiria impegnato in battaglia contro Libna. Aveva infatti udito che il suo re aveva levato il campo da Lachis, perché era venuto a sapere a proposito di Tiraca, re di Etiopia. Ecco, è uscito per combattere contro di te. Di nuovo Sennacherib inviò messaggeri ad Ezechia dicendo: così direte ad Ezechia, re di Giuda: il tuo Dio, in cui tu riponi fiducia, non ti inganni col dirti: Gerusalemme non verrà data in mano del re di Assiria. Ecco, tu hai udito quello che i re di Assiria hanno fatto a tutti i paesi, votandoli alla distruzione, e tu solo saresti salvato? Gli dei delle genti che i miei padri hanno distrutto hanno forse liberato Gozan, Carran, Rezef e i figli di Eden che abitavano a Telassar? Dove sono il re di Kamat, il re di Arpad, il re della città di Sefarvaim, di Ena e di Avva? Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò al suo cospetto, dicendo: Signore, Dio di Israele, che siede sui cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu solo hai fatto i cieli e la terra. Tendi l'orecchio, o Signore, e ascolta. Apri gli occhi, o Signore, e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, o Signore, che i re di Assiria hanno distrutto le genti e i loro territori, hanno dato alle fiamme i loro dei, perché questi non erano veri dei, bensì opera delle mani d'uomo, legno o pietra. Per questo hanno potuto distruggerli. Ora, o Signore, Dio nostro, salvaci dalle mani di lui, così tutti i regni della terra sapranno che tu solo sei Dio, o Signore. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire ad Ezechia: così parla il Signore, Dio di Israele. Ho udito la preghiera che tu mi hai rivolto a motivo di Sennacherib, re di Assiria. Questa è la parola che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti beffeggia la Vergine figlia di Sion. Dietro di te scuote il capo la figlia di Gerusalemme. Chi hai tu insultato e schernito? Contro chi hai tu alzata la voce e hai levato i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele. Per mezzo dei tuoi messaggeri hai insultato il mio Signore. Hai detto: con moltitudine di carri sono salito in cima ai monti, sulle ultime cime del Libano. Ho tagliato i suoi cedri più alti, i suoi cipressi più belli. Sono giunto fino al suo rifugio più remoto, nella sua foresta lussureggiante. Io ho scavato ed ho bevuto acque straniere. Ho disseccato sotto la pianta dei miei piedi tutti i fiumi d'Egitto. Non l'hai tu forse udito? Da tempo l'ho preparato, dai tempi antichi l'ho progettato, ed ora lo realizzo. Il tuo destino fu quello di ridurre in mucchi di rovine città fortificate. I loro abitanti, stremati di forze, furono spaventati e confusi. Divennero come l'erba del campo, come le foglioline dell'erbetta, come l'erba dei tetti e il maggese dinanzi al vento orientale. Innanzi a me è il tuo sorgere e il tuo sederti. Io conosco il tuo uscire e il tuo entrare. Poiché il tuo furore è contro di me e la tua arroganza mi è giunta alle orecchie, porrò il mio anello alle tue narici, il mio morso alle tue labbra, e ti ricondurrò per la strada per cui sei venuto. Questo sarà il segno per te. Quest'anno si mangerà il raccolto cresciuto spontaneamente, l'anno prossimo quello che vi ricrescerà, ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete i frutti. Il resto superstite della casa di Giuda getterà nuove radici in basso e farà frutti in alto, perché da Gerusalemme uscirà un resto e superstiti dal monte Sion. La gelosia del Signore degli eserciti farà questo. Perciò, così dice il Signore contro il re di Assiria: egli non entrerà in questa città, né vi scoccherà una freccia, non l'affronterà con lo scudo, né alzerà contro di essa un terrapieno. Per la strada onde è venuto se ne ritornerà, né entrerà in questa città. Oracolo del Signore. Io proteggerò questa città e la salverò per amor mio e per amore di Davide, mio servo. Ora in quella notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Quando gli altri si levarono al mattino, ecco che quelli erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, levò il campo e partì per far ritorno a Ninive, dove rimase. Mentre egli si trovava in adorazione nel tempio del suo dio Nisroch, i suoi figli Adrammelech e Sarezer lo uccisero di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Al suo posto regnò suo figlio Assaraddon. In quei giorni Ezechia s'ammalò mortalmente. Allora il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: così parla il Signore, metti in ordine la tua casa, perché stai per morire e non vivrai. Allora Ezechia voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore: Deo, Signore, ricorda che io ho camminato alla tua presenza con fedeltà e con cuore devoto, e ho fatto ciò che è gradito ai tuoi occhi. Poi Ezechia scoppiò in un gran pianto. Isaia non era ancora uscito dal cortile centrale, che gli fu rivolta la parola del Signore: ritorna a dire ad Ezechia, capo del mio popolo, così parla il Signore, Dio di tuo padre Davide. Ho ascoltato la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco e di qui a 3 giorni salirai al tempio del Signore. Aggiungerò 15 anni e libererò dalla mano del re di Assiria te e questa città, cui farò da scudo per amore mio e del mio servo Davide. Poi Isaia disse: «Prendete una schiacciata di fichi». La presero, l'applicarono sull'ulcera ed egli guarì. Allora Ezechia disse a Isaia: «Qual è il segno che il Signore sta per guarirmi e nel terzo giorno salirò al tempio del Signore?» Isaia rispose: «Questo è per te il segno da parte del Signore che egli realizzerà quello che ha detto. Vuoi che l'ombra avanzi di 10 gradi oppure che retroceda di 10 gradi? Ezechia disse: «È facile per l'ombra avanzare di 10 gradi». «No, piuttosto l'ombra retroceda di 10 gradi». Allora il profeta Isaia invocò il Signore, che fece retrocedere l'ombra di 10 gradi su quelli che il sole aveva già percorso sulla scala di Acaz. In quel tempo il re di Babilonia, Merodach Baladan, figlio di Baladan, inviò ad Ezechia lettere e doni, poiché aveva saputo che egli era stato malato. Ezechia fu molto lieto e mostrò loro tutta la sala del tesoro, l'argento, l'oro, gli aromi e l'olio prezioso, il suo arsenale e quanto si trovava nei suoi magazzini. Non ci fu nulla del palazzo e di tutti i possedimenti che Ezechia non facesse loro vedere. Allora il profeta Isaia si recò dal re Ezechia e gli disse: «Che cosa hanno detto quegli uomini e d'onde sono venuti a te?» Ezechia rispose: «Essi sono venuti da un paese lontano, da Babilonia». Quegli replicò: «Che cosa hanno visto nel tuo palazzo?» Ezechia rispose: «Hanno visto tutto quello che si trova nel mio palazzo. Non c'è nulla dei miei magazzini che io non abbia fatto loro vedere». Allora Isaia disse ad Ezechia: «Ascolta la parola del Signore. Ecco, verranno giorni in cui sarà portato a Babilonia tutto quello che si trova nel tuo palazzo e quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi. Nulla sarà lasciato, dice il Signore. Inoltre, alcuni dei tuoi figli che da te sono usciti, che tu hai generato, saranno presi e diverranno eunuchi nel palazzo del re di Babilonia». Ezechia disse a Isaia: «È buona la parola del Signore che tu hai pronunziato. Pensavo infatti, perché no? Almeno durante la mia vita vi sarà pace e sicurezza». Le altre gesta di Ezechia, tutto il suo coraggio, e come egli ha costruito la piscina e l'acquedotto per condurre l'acqua in città, non sono forse descritti nel libro degli annali dei re di Giuda? Ezechia s'addormentò con i suoi antenati e suo figlio Manasse regnò al suo posto. Al suo avvento al trono Manasse aveva 12 anni e regnò 55 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Chefziba. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitando le abominazioni delle genti che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. Ricostruì infatti le alture che suo padre Ezechia aveva distrutto, eresse altari a Baal e fece un palo sacro come aveva fatto Acab, re di Israele. Venerò tutto l'esercito del cielo e gli rese un culto. Costruì pure altari nel tempio del Signore, riguardo al quale il Signore aveva detto: «In Gerusalemme porrò il mio nome». Costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei due atrii del tempio del Signore. Fece inoltre bruciare suo figlio, praticò la magia e la divinazione, stabilì negromanti e indovini e insistette nel fare ciò che è male agli occhi del Signore per provocarne lo sdegno. Pose perfino l'idolo di Asera che aveva fatto nel tempio di cui il Signore aveva detto a Davide e a suo figlio Salomone: «In questo tempio in Gerusalemme che mi sono scelta fra tutte le tribù di Israele porrò il mio nome in eterno. Non permetterò più che il piede di Israele erri lontano dalla terra che ho dato ai suoi padri, purché essi procurino di praticare tutto quello che ho comandato e tutta la legge che il mio servo Mosè ha loro prescritto. Essi però non hanno ascoltato, e Manasse li indusse a fare peggio delle genti che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. Allora il Signore disse per mezzo dei suoi servi i profeti: poiché Manasse, re di Giuda, ha commesso queste abominazioni, ha agito peggio di quanto fecero gli amorrei prima di lui, e mediante i suoi idoli ha indotto Giuda a peccare, il Signore Dio di Israele parla così: ecco, io farò venire tale sciagura su Gerusalemme e su Giuda che chiunque ne sentirà parlare ne avrà rintronate entrambe le orecchie. Su Gerusalemme stenderò la funicella di Samaria e il piombino della casa di Acab. Ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto che una volta ripulito si volta sotto sopra. Rigetterò il resto della mia eredità, li darò in mano dei loro nemici ed essi saranno preda e bottino di tutti i loro nemici, perché fecero ciò che è male agli occhi miei e hanno continuato a provocarmi dal giorno in cui i loro padri uscirono dall'Egitto fino ad oggi. Manasse versò pure sangue innocente in tale quantità da riempire Gerusalemme da un capo all'altro, oltre il peccato che fece commettere a Giuda, compiendo il male agli occhi del Signore. Le altre gesta di Manasse, tutto quello che egli fece e il peccato che ha commesso, non sono forse descritti nel libro degli annali dei re di Giuda? Manasse s'addormentò con i suoi antenati e fu sepolto nel giardino del suo palazzo, cioè nel giardino di Uzza. Al suo posto regnò suo figlio Amon. Amon aveva 22 anni al suo avvento al trono e regnò 2 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Mesullemet, figlia di Caruz, da Jotba. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre Manasse. Imitò interamente la condotta di suo padre e venerò gli idoli che suo padre aveva venerato e si prostrò dinanzi a loro. Abbandonò il Signore, Dio dei suoi antenati, e non camminò per la via del Signore. I subalterni di Amon ordirono una congiura contro di lui e uccisero il re nel suo palazzo. Il popolo della terra però colpì tutti quelli che avevano congiurato contro il re Amon e al suo posto proclamò re suo figlio Giosia. Le altre gesta di Amon e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? Lo seppellirono nel suo sepolcro, nel giardino di Uzza, e al suo posto regnò suo figlio Giosia. Giosia aveva 8 anni al suo avvento al trono e regnò 31 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jedida, figlia di Adaia da Boscat. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore e imitò la condotta del suo antenato Davide, senza deviare a destra o a sinistra. L'anno 18° del re Giosia, il re mandò al tempio del Signore lo scriba Safan, figlio di Asalia, figlio di Mesullam, dicendogli: sali dal sommo sacerdote Chelchia, perché fonda l'argento che è stato portato nel tempio del Signore e che i custodi della porta hanno raccolto dal popolo. Lo si consegni in mano dei capi che presiedono agli operai nel tempio del Signore, perché lo diano agli operai che lavorano a riparare il tempio del Signore, cioè ai carpentieri, ai costruttori e ai muratori, perché comperino legname e pietre squadrate destinati alla riparazione del tempio. Ma non si chieda loro conto del denaro consegnato in loro mano, perché essi lavorano onestamente. Il sommo sacerdote Chelchia disse allo scriba Safan: nel tempio del Signore ho trovato il libro della legge. Chelchia diede il libro a Safan e questi lo lesse. Allora lo scriba Safan andò dal re e gli riferì la cosa con queste parole: «I tuoi servi hanno fuso l'argento trovato nel tempio e l'hanno consegnato in mano dei capi che presiedono agli operai nel tempio del Signore». Poi lo scriba Safan comunicò al re: «Il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro». E Safan lo lesse alla presenza del re. Udite che ebbe le parole del libro della legge, il re si stracciò le vesti e ordinò al sacerdote Chelchia, ad Achicam figlio di Safan, ad Akbor figlio di Michea, allo scriba Safan e ad Asaia servo del re: «Andate a consultare il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro che è stato trovato. Grande deve essere l'ira del Signore che si è accesa contro di noi, poiché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro e non hanno agito in conformità a tutto quello che vi è scritto». Il sacerdote Chelchia, Achicam, Akbor e Safan si recarono dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tikva, figlio di Carcas, custode dei vestiti. Essa abitava in Gerusalemme, nella città nuova. Parlarono con lei ed essa rispose: «Così parla il Signore, Dio di Israele. Dite a chi vi ha mandato da me: così parla il Signore. Ecco, sto per far venire una sciagura su questo luogo e su coloro che lo abitano. Precisamente, tutte le cose del libro che il re di Giuda ha letto, poiché essi mi hanno abbandonato e hanno bruciato aromi agli altri dei, così da provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani. La mia collera si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda, che vi ha mandato a consultare il Signore, così direte: così parla il Signore, Dio di Israele. Le parole che tu hai udito, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore all'udire quello che ho detto contro questo luogo e contro coloro che lo abitano, e cioè che essi diverrebbero vittime di spavento e di maledizione, poiché hai stracciato le tue vesti e hai pianto al mio cospetto, anch'io ti ho dato ascolto, oracolo del Signore. Perciò, ecco, ti riunirò ai tuoi antenati, e sarai raccolto in pace nel tuo sepolcro, cosicché i tuoi occhi non vedranno tutto il male che io sto per far venire su questo luogo». Quelli riportarono la risposta al re. Convocato che ebbe presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme, il re salì al tempio del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo dal più piccolo al più grande, e lesse all'uditorio tutte le parole del libro della legge che era stato trovato nel tempio del Signore. Il re, stando sul podio, concluse alla presenza del Signore l'alleanza che gli imponeva di seguire il Signore, di custodire i suoi comandamenti, le sue leggi e i suoi precetti con tutto il cuore e con tutta l'anima, al fine di attuare le clausole dell'alleanza scritta in questo libro. Tutto il popolo aderì all'alleanza. Il re ordinò al sommo sacerdote Chelchia, ai sacerdoti in seconda e ai custodi della soglia di fare portare fuori del santuario del Signore tutti gli oggetti preparati per il culto di Baal, di Asera e di tutto l'esercito del cielo. Poi li bruciò fuori di Gerusalemme, nei campi del Cedron, e portò le loro ceneri a Betel. Egli soppresse i falsi sacerdoti che i re di Giuda avevano costituito e che bruciavano aromi sulle alture nelle città di Giuda e nei dintorni di Gerusalemme, e anche quelli che bruciavano aromi a Baal, al sole, alla luna, alle costellazioni e a tutto l'esercito del cielo. Fece portare il palo sacro dal tempio del Signore fuori di Gerusalemme nella valle del Cedron, dove lo bruciò e lo ridusse in cenere, che poi gettò nel sepolcro dei figli del popolo. Demolì anche la casa dei prostituti sacri che si trovavano nel tempio del Signore, dove le donne tessevano i veli per Asera. Radunò tutti i sacerdoti dalle città di Giuda e profanò le alture su cui si erano bruciati aromi, da Gaba fino a Bersabea. Abbatté inoltre l'altura dei satiri che si trovava all'ingresso della porta di Giosuè, governatore della città, a sinistra di chi entra per la porta della città. Però i sacerdoti delle alture non potevano salire sull'altare del Signore a Gerusalemme, benché mangiassero i pani senza lievito in mezzo ai loro fratelli. Egli profanò il Tofet che si trova nella valle di Ben Innon, finché nessuno bruciasse il proprio figlio o la propria figlia in onore di Moloch. Rimosse i cavalli che i re di Giuda avevano dedicato al sole all'ingresso del Tempio del Signore, presso la camera dell'eunuco Netan Melech che si trovava nei recinti. Bruciò nel fuoco il carro del sole. Il re distrusse gli altari che si trovavano sulla terrazza della camera superiore di Acaz e che i re di Giuda avevano fatto. Frantumò gli altari che Manasse aveva fatto nei due cortili del Tempio del Signore e ne gettò la polvere nella valle del Cedron. Il re profanò le alture che si trovavano di fronte a Gerusalemme, a destra del Monte degli Ulivi, e che Salomone, re di Israele, aveva costruito per Astarte, obbrobrio dei Sidoni, per Camos, obbrobrio di Moab, e per Milcom, abominazione degli Ammoniti. Egli frantumò anche le stele, tagliò i pali sacri e riempì i loro posti di ossa umane. Demolì anche l'altare del Tempio di Betel e l'altura creata da Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele. Ne frantumò le pietre, le ridusse in polvere e bruciò il palo sacro. Guardato che ebbe intorno, Giosia vide i sepolcri che erano là sul monte, mandò a prelevare le ossa da questi sepolcri e le bruciò sull'altare. Così lo profanò, secondo la parola del Signore, che l'uomo di Dio pronunciò quando Geroboamo si trovava accanto all'altare, durante la festa. Voltatosi, Giosia fissò lo sguardo sul sepolcro dell'uomo di Dio che aveva predetto queste parole e disse: «Che monumento è quello che io vedo?» Gli uomini della città gli risposero: «È il sepolcro dell'uomo di Dio che venne da Giuda e predisse queste cose che tu hai fatto sull'altare di Betel». Quegli allora disse: «Lasciatelo in pace, nessuno smuova le sue ossa». Così le sue ossa rimasero intatte insieme a quelle del profeta che era venuto da Samaria. Giosia rimosse pure tutti i santuari delle alture che si trovavano nelle città di Samaria, che i re di Israele avevano fatto per irritare il Signore. Egli fece ad essi tutto quello che aveva fatto a Betel. Immolò sugli altari tutti i sacerdoti che si trovavano colà e vi bruciò sopra ossa umane. Poi fece ritorno a Gerusalemme. Il re ordinò a tutto il popolo: «Celebrate una Pasqua in onore del Signore, vostro Dio, come è scritto in questo libro dell'Alleanza». Non s'era più celebrata una Pasqua come quella dal tempo dei giudici che avevano governato Israele e durante tutto il tempo dei re di Israele e di Giuda. Solamente nell'anno 18° del re Giosia fu celebrata questa in onore del Signore in Gerusalemme. Giosia eliminò pure le negromanti, gli indovini, i terafim, gli idoli e tutti gli abomini che si potevano vedere nel paese di Giuda e in Gerusalemme. In questo modo realizzò le parole della legge scritte nel libro che il sacerdote Chelchia aveva trovato nel Tempio del Signore. Prima di lui non vi fu un re che come lui si sia rivolto al Signore con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutte le sue forze, secondo tutta la legge di Mosè. Neppure dopo di lui ne sorse uno come lui. Tuttavia il Signore non smorzò l'ardore della sua grande ira di cui era acceso contro Giuda a causa di tutte le prevaricazioni commesse da Manasse. Perciò il Signore disse: «Rimuoverò anche Giuda dal mio cospetto, come ho rimosso Israele. rigetterò questa città che ho scelto, cioè Gerusalemme, e il tempio di cui avevo detto: là sarà il mio nome. Le altre gesta di Giosia e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? Durante la sua vita il faraone Necao, re di Egitto, salì verso il re di Assiria sul fiume Eufrate. Il re Giosia gli mosse incontro, ma Necao lo uccise al primo scontro. Allora i suoi servi lo caricarono già morto su un carro, lo condussero da Megiddo a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo sepolcro. Il popolo della terra prese Joacaz, figlio di Giosia, lo unse e lo proclamò re al posto di suo padre. Al suo avvento al trono, Joacaz aveva 23 anni e regnò 3 mesi in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia, da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi antenati. Il faraone Necao lo fece prigioniero a Ribla, nel paese di Camat, impedendogli così di regnare in Gerusalemme, e impose al paese un tributo di 100 talenti d'argento e di 10 talenti d'oro. Il faraone Necao creò re Eliakim, figlio di Giosia, al posto di suo padre Giosia, e cambiò il suo nome in quello di Joiachim. Poi prese Joacaz e lo condusse in Egitto, dove morì. Joiachim consegnò l'argento e l'oro al faraone, ma dovette gravare sul paese per consegnare la somma richiesta. Riscosse infatti da ognuno del popolo della terra, secondo il suo estimo, l'argento e l'oro che doveva consegnare al faraone Necao. Al suo avvento al trono, Joiachim aveva 25 anni e regnò 11 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Zebida, figlia di Pedaia da Ruma. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi antenati. Al suo tempo, Nabucodonosor, re di Babilonia, salì contro di lui e Joiachim gli fu sottomesso per 3 anni, ma poi tornò a ribellarsi. Il Signore gli mandò contro bande di Caldei, di Aramei, di Moabiti e di Ammoniti. Le mandò contro Giuda per distruggerlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo dei suoi servi, i profeti. Questo accadde a Giuda a causa della collera del Signore, che voleva allontanarlo dal suo cospetto per tutti i peccati che Manasse aveva commesso e anche per il sangue innocente che gli aveva versato e di cui aveva riempito Gerusalemme. Il Signore pertanto non volle perdonare. Le altre gesta di Joiachim e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? Joiachim s'addormentò insieme ai suoi antenati e al suo posto regnò suo figlio Joiachin. Il re di Egitto non osò più uscire fuori del suo territorio, poiché il re di Babilonia aveva conquistato tutto quello che apparteneva al re d'Egitto, dal torrente di Egitto fino al fiume Eufrate. Al suo avvento al trono, Joiachin aveva 18 anni e regnò in Gerusalemme 3 mesi. Sua madre si chiamava Necusta, figlia di Elnatan, da Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo i subalterni di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono contro Gerusalemme e la città venne assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, venne egli pure contro la città mentre i suoi subalterni l'assediavano. Allora Joiachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia insieme con la madre, i servi, i capi e gli eunuchi. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Poi asportò di là tutti i tesori del tempio del Signore, i tesori del palazzo reale, e frantumò tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fabbricato per il santuario del Signore, secondo quello che il Signore gli aveva detto. Deportò infine tutta Gerusalemme, cioè tutti i capi, tutti i prodi guerrieri in numero di 10.000 e tutti i fabbri e tutti i calderai. Non rimase che il popolo povero della terra. Egli deportò Joachin a Babilonia. Inoltre condusse prigionieri da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi eunuchi e i nobili del paese. Il re di Babilonia fece condurre prigionieri a Babilonia tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i fabbri e i calderai in numero di 1.000, tutti uomini atti alla guerra. Al posto di Joachin, il re di Babilonia creò re Mattania, zio di lui, e gli cambiò il nome in Sedecia. All'avvento al trono, Sedecia aveva 21 anni e regnò 11 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Joachim. Questo accadde a Gerusalemme e a Giuda a motivo dell'ira del Signore, fino al punto che li rigettò dal suo cospetto. Sedecia poi si ribellò al re di Babilonia. Il 9° anno del suo regno, il 10° mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne a Gerusalemme. S'accampò davanti ad essa e le costruirono intorno delle trincee. La città rimase assediata fino all'11° anno del re Sedecia. Il 4° mese, il 9 del mese, la fame era così grave in città che non v'era più pane per il popolo della terra. Allora fu praticata una breccia nella città e il re fuggì con tutti gli uomini atti a combattere di notte per la porta tra le due mura che si trovava presso il giardino del re, mentre i caldei circondavano la città, e prese la via dell'Araba. Ma l'esercito dei caldei inseguì il re e lo raggiunse nella pianura di Gerico, mentre tutto l'esercito si disperdeva lontano da lui. Catturato che ebbero il re, lo condussero a Ribla dal re di Babilonia, che pronunciò contro di lui la sentenza. Fece uccidere i figli di Sedecia sotto gli occhi di questi, poi strappò gli occhi di Sedecia e, dopo averlo legato con catene, lo condusse a Babilonia. Il 5° mese, il 7 del mese, corrispondente al 19° anno di Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse a Gerusalemme Nabuzardan, comandante della guardia, subalterno del re di Babilonia. Egli incendiò il tempio del Signore, il palazzo reale e tutte le case di Gerusalemme. Tutto l'esercito dei caldei che era con il comandante della guardia demolì le mura intorno a Gerusalemme. Poi Nabuzardan, comandante della guardia, deportò il resto del popolo che era rimasto nella città, gli evasi che erano passati al re di Babilonia e il resto della folla. Il comandante della guardia lasciò una parte dei poveri del paese come vignaioli ed agricoltori. I caldei spezzarono le colonne di bronzo che erano nel tempio del Signore, le basi e il mare di bronzo che si trovavano nel tempio del Signore, e ne portarono il bronzo a Babilonia. Presero inoltre le pentole, le palette, i coltelli, le coppe e tutti gli oggetti di bronzo necessari per il culto. Il comandante della guardia asportò pure gli incensieri e i vassoi, tutto ciò che era d'oro e d'argento. Prese ancora ambedue le colonne, il mare e i bacini che Salomone aveva fatto per il tempio del Signore. Il peso del bronzo di tutti questi oggetti era incalcolabile. L'altezza di una colonna era di 18 cubiti. Su di essa si trovava un capitello di bronzo, la cui altezza era di 5 cubiti. Intorno al capitello v'era una rete con melograne. Il tutto era di bronzo. Identica a questa era la seconda colonna. Il comandante della guardia catturò il sacerdote capo Seraia, il sacerdote in seconda Zofonia e i 3 custodi della soglia. Dalla città prese anche uno degli eunuchi che era preposto agli uomini di guerra e 5 fra i familiari del re che si trovavano in città. Così pure lo scriba del capo dell'esercito ha detto al reclutamento del popolo della terra e 60 uomini del popolo della terra che si trovavano in città. Catturati che li ebbe, Nabuzardan, comandante della guardia, li condusse dal re di Babilonia a Ribla. Il re di Babilonia li fece uccidere a Ribla, nel paese di Kamat. Così Giuda fu deportato lontano dalla sua terra. Alla popolazione rimasta in terra di Giuda perché ivi lasciata da Nabucodonosor, re di Babilonia, questi prepose Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan. Quando tutti i comandanti delle truppe e i loro uomini seppero che il re di Babilonia aveva creato governatore Godolia, si recarono da lui a Mizpah. Essi erano Ismaele, figlio di Netania, Giovanni, figlio di Careach, Seraia, figlio di Tancumet da Netofa, Yaazania, figlio del Maacatita, assieme ai loro uomini. Godolia giurò ad essi e ai loro uomini: «Non abbiate paura dei Caldei, dimorate nel paese, servite il re di Babilonia e vi troverete bene». Il settimo mese, però, arrivò Ismaele, figlio di Netania, figlio di Elisama, di stirpe reale, che aveva con sé 10 uomini. Essi colpirono a morte Godolia, i giudei e i caldei che erano con lui a Mizpah. Allora tutta la popolazione, dal più piccolo al più grande, e i comandanti delle truppe partirono e andarono in Egitto perché avevano paura dei caldei. L'anno 37esimo della deportazione di Joiachin, re di Giuda, il 12esimo mese, il 27 del mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, nell'anno del suo avvento al trono, graziò Joiachin, re di Giuda, e lo liberò dalla prigione. Gli parlò con benevolenza e gli assegnò un trono superiore ai troni dei re che erano con lui a Babilonia. Egli mutò gli abiti di prigioniero e mangiò sempre alla mensa del re per tutto il tempo della sua vita. Il suo sostentamento quotidiano gli fu procurato dal re giorno per giorno, per tutto il tempo della sua vita.